è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Non mi sono trasferito per questioni economiche, per questioni di privacy. Perché? Senta, io non vivo a Roma e non ho casa a Roma, non faccio vita sociale a Roma, non ho salotti o frequentazioni romane. Non ne può fregare di meno. Io lavoro, faccio un lavoro molto difficile e impegnativo e vorrei continuare a farlo, credo anche per quanto posso, nell'interesse del mio paese. Cretino! Cretino! Spuntati in un occhio, guarda sulla testa, è una voglia di ginocchio. Nell'ultimo giorno prima delle vacanze estive, 3 settimane, caro Parenzo, torna d'attualità la vicenda Tremonti. In realtà non è mai venuta meno, non è mai mancata come storia nelle ultime settimane. Certo, oggi Tremonti ha deciso di parlare non solo con quella lettera di risposta al Corriere della Sera e in un'intervista ancora più succulenta a Repubblica, ma anche a Uno Mattina, dal mio amico Gerardo Greco, caro Parenzo. Lo so, ha scelto questo contenitore del Mattino per farsi rivedere in pubblico, diciamo. Per esternare, non me ne frega niente di avere la casa a Roma, hai sentito, per motivi di privacy. In realtà poi ha detto delle altre cose a Repubblica perché temeva di essere spiato. Questo è grosso, eh? Temeva di essere spiato, addirittura pedinato durante la sua permanenza nella caserma della Guardia di Finanza. Cosa dice ancora? Potevo fare più attenzione, sono impegnato. Forse avrei dovuto essere più attento, ma se tu sei costretto a lavorare in quel modo, in continuo, vi assicuro che avere il terzo debito pubblico del mondo in una crisi di questo tipo è una cosa che ti impegna abbastanza. Cretino! Cretino! Ma perché si intromette sempre Brunetta? Non ho capito, non si capisce di cosa parla Brunetta. Si intromette. Ma io non ho capito una cosa, scusami, dimmi. Quando il ministro Giulio Tremonti dice che siccome ha cose importanti da fare, c'è il terzo debito del mondo, però sulla la casa comunque una cosa, non è che siccome hai il terzo debito del mondo non puoi sapere dove vai a abitare, la casa. Questo caso devo dire che sono d'accordo con te. Cioè se tu hai il terzo debito del mondo non sai chi paga l'affitto. Puoi anche disinteressarti di dove abiti, sì, secondo Tremonti naturalmente. Ho capito, va bene. Non ho bisogno di rubare i soldi all'italiano, anche questo non c'entra niente però con l'oggetto della discussione. Cioè nessuno mette in dubbio che Tremonti, cioè, forse qualcuno l'ha anche messo in dubbio per la storia di Finmeccanica, un presunto ricatto eccetera, però lui dice io non rubo i soldi agli italiani, dunque non mi devo scusare. Beh, è difficile scusarsi oppure no? Senta, per uno come me, devo dire onestamente, scusarsi è una cosa che però devo dire, se ho fatto degli errori, l'unica scusante è che ho lavorato un sacco, ecco. Non ho bisogno di rubare i soldi, di fregare i soldi agli italiani, non l'ho mai fatto e vorrei continuare a non farlo. Cretino! Ma perché si intromette sempre Brunetta? Non si capisce. E l'ultimo Tremonti, do in beneficenza più di quanto prendo da parlamentare. Prima di fare il ministro dichiaravo, diciamo, 10 miliardi di vecchie lire all'anno. Do in beneficenza più di quello che prendo come parlamentare. Non ho bisogno di avere illeciti favori, non l'ho mai avuto, non l'ho mai chiesto. Esclusivo questa sera in onda sulla 7. L'onorevole europarlamentare Mario Borghezio, non dico che si prostra perché non è così, ma chiede scusa ufficialmente all'interno dell'ambasciata norvegese, davanti all'ambasciatore norvegese, ad altri funzionari. C'era addirittura una candela davanti, ho visto nelle immagini. Sì, questa sera tutto in esclusiva in onda sulla 7, perché la 7 è stata l'unica a entrare con le telecamere all'interno dell'ambasciata norvegese. Dico bene, Parenzo? C'eri anche tu, naturalmente. Ottimo, ottimo lancio, ottimo. No, beh, non è l'ottimo lancio, ottimo il lavoro che è stato fatto. Chiedo scusa. Grazie. Ecco le scuse ufficiali di Borghezio. Rivolgo un pensiero addolorato e partecipe alle vittime della strage di Oslo, ai loro cari e a tutto il popolo norvegese, esempio di grande civiltà. Mi rammarico e mi scuso se le mie parole, certo mal interpretate, ne avessero offeso la sensibilità e il dolore. Con affetto e sincera partecipazione, Mario Borghezio, deputato europeo. Poi accenna a una preghiera in latino. Vorrei dire anche una preghiera in ricordo di queste cose. Mater noster qui in cieli, santificato il nome tuo, venia per il tuo fiero, la tua, si continua nel tuo bene. È un Borghezio, dobbiamo dire, cioè, che sembra quasi un agnellino in questi giorni. Noi vogliamo bene a Mario Borghezio, un Mario Borghezio completamente trasformato, direi anche segnato da questa vicenda, no? Anche se nel suo tour, diciamo, romano, come vedremo poi stasera. Come vedremo stasera, c'è qualche e restate anche con noi qui alle 20:30, ce n'è un po' per tutti. Sì. È un Borghezio double face. Adesso, il nostro inglese, come al solito. Sì. Claudicante. Allora, Guido Crosetto, buonasera. Molto buonasera. Bene. Come sta? Bene. Accaldato? Sì, non più di tanto. Sottosegretario alla difesa. Tra l'altro piemontese come Borghezio. Vabbè. Sì, guarda se sono noi esageriamo. In che senso? Con gli accostamenti, dice? No, perché è una battuta. Cioè le fa schifo, non ho capito. La notizia positiva è che voi andate in ferie. Perché? Che ho capito. Ah, perché così non facciamo danni, dice, se è colpa nostra. È pazzesco, Scusi, no, non capisco perché dovrebbe essere positiva la notizia. Che non è che l'ironia è un appannaggio solo di voi due. No, ho capito, però. No, per carità, però dice addirittura la notizia importante è che andiamo in ferie. Crosetto, due punti, per fortuna la zanzara va in ferie tre settimane. No, adesso, la zanzara tu cura, andassero anche le zanzare. Ah, in generale, beh, quello caro Crosetto, lo sa che mi dispiace anche un po' andare in ferie, devo dire la verità. Sì. Ogni volta che arrivo lì mi dispiace. Sì. Lei va in ferie, per esempio? Beh, se posso, volentieri, anche perché mio figlio altrimenti un po' non mi riconosce più, quindi. A me invece dispiace un po', non so perché, quando arrivo lì che ci sono cose calde. Guardi, io confesso che non ho proprio bisogno. Lei ne ha bisogno, vede la differenza? Prima però ho ancora un passaggio parlamentare, uno in Afghanistan. Io sento lì che c'è l'attualità, ci sono le notizie, un po' mi dispiace lasciare il campo, no? Scusate, lavorate per andare a soffrire in ferie. Beh, questo è vero, devo dare ragione. Lavoro, cioè. E infatti alla fine diventa una sofferenza. Senta, ma la convince le spiegazioni di Tremonti? L'hanno convinta sulla questione della casa? Cioè, in sostanza si tratta di questo. Ha pagato in nero, secondo lei, oppure la questione del nero, come oggi ha detto Tremonti, non è in questione? Ma secondo lei, con tutto il rispetto, mi devo occupare di come ha pagato Tremonti. Io mi fido della sua parola. Su una cosa posso dire, che non sono sicuramente un amico. Penso che io non ho mai messo in dubbio, ho mai pensato che Tremonti non fosse una persona onesta. Questo non mi pare un argomento. Perché lo rimarca così tanto Tremonti? No, perché voi mi state chiedendo, ha pagato in nero, secondo lei ha fatto tutto regolare, io quindi voglio dire la mia idea. Sì. Che posso dire, ripeto, in quanto non sono una persona. Cioè, ha sbagliato in questa vicenda, al di là di quello che dice lui, che dice ho commesso una leggerezza, non lasciare prima la casa. Ma quella è ha commesso una stupidaggine, se si ricorda, ve l'ho già detto l'altra volta. Sì, sì, sì. Quindi, io sono convinto che Tremonti sia una persona onesta, quindi assolutamente. Difatti, a me interessa che lui, più che continuare a pretendere in televisione e fare queste cose anche importanti, come giustificarsi, adesso c'è bisogno di farlo, stesse, come diceva lui, a lavorare al Ministero dell'Economia, in modo tale da fare qualcosa in più oltre la manovra che abbiamo fatto. Questo mi interesserebbe. Vabbè, questo... No, guardi, a far girare gli scherzi, questo è quello importante. Sì, quando il nostro debito pubblico viene sottoposto ormai ogni settimana alla speculazione, per cui ci costa sempre di più, ogni volta che ci costa di più fa miliardi di euro. Sì. Sono l'economia è ferma, cioè, allora io mi aspetto da una persona come Tremonti. Sì, ma perché non lo sta facendo? Scusi, non lo sta facendo. Continuerò a criticare che se sta ministro, appunto, decide di star ministro, si occupi, come dice lui, a tempo pieno di questo problema e faccia delle proposte che noi in qualche modo possiamo proporre al Paese, al Parlamento, per affrontare un problema che... Ma è un po' azzoppato, secondo lei, Tremonti? Beh, certo. Questa, vicenda, questa vicenda sicuramente... Il Tremonti di un mese e mezzo fa è diverso da quello che c'è oggi. Cioè è un po' azzoppato, quindi, insomma. Quindi anche queste scuse non sono sufficienti, insomma. Ma guardi, per me, ripeto, indipendentemente dalle scuse, è sufficiente il fatto di conoscerlo. So che una persona non ha bisogno di soldi, so, come vi ho detto l'altra volta facendovi ridere, che non sarebbe niente uno col braccino corto. Eh beh, però 4.000 al mese li dava, col braccino corto, però 4.000 li dava. È un po' in contraddizione con quello che ha detto lei, braccino corto, la sorella ci ha detto che è parsimonioso. In realtà 4.000 li sborsava. Poi 4.000 euro così, dati gratis, come 4.000, 4.000, era quello che aveva concordato, cioè bene, se la casa costava 8.000 e lui lo usava al 50%, abbiamo 4.000. Lei, Crosetto, quanto paga? Ma lei soprattutto, come Tremonti, va in giro con i soldi in contanti? Perché sembra che Tremonti prende in contanti, forse una prassi, i soldi da ministro, diciamo, l'indennità, e poi con questi soldi pagasse... Questa è una notizia, vuol dire che non si fila nelle banche. Questa è una notizia, vuol dire che non si fila nelle banche. Beh, nelle banche c'è il resto, diciamo, il grosso. Questo è l'argent de poche. Vuol dire che non si fila nel credito bancario. Questo è preoccupante. Per non pagare la commissione quando preleva. No, ma è l'argent de poche. Vede Parezzo che lei ha capito tutto. No. Un calcolo che ci perde di meno, magari costava 0,1 centesimo di euro. E la cosa no, questo secondo me è l'argent de poche che usa per le spese così. Ma com'è possibile che riceve i soldi in contanti? Questo è curioso. Lui dice che è una prassi, adesso non mi ricordo. Scusi, saranno adesso, con tutto il rispetto. Sono affari suoi. Vabbè, sono affari suoi, sa. Adesso lei prendere un assegno, prendere contanti. Insomma, voglio dire, secondo lei il rapporto che c'è, stiamo parlando solamente della questione della casa, perché il resto se ne può anche discutere, ma c'è un'inchiesta giudiziaria su Milanese, su cui naturalmente lui si difende, eccetera, eccetera. Il rapporto tra Tremonti e Milanese è un rapporto trasparente, secondo lei? Ma fa quello, devo chiarirlo. La tranquillità con cui Tremonti, lo vedo anche in questi giorni di agitazione, mi fa pensare che sia un rapporto trasparente, cioè che se Milanese ha fatto qualcosa che non andava, Tremonti non ne fosse a conoscenza. Però d'altronde, guardi, io non mi vedo Tremonti che si mette d'accordo con uno, lasci perdere Milanese, Parenzo per andare a dire fatti dare 5.000 euro da quello se lo nomina un consiglio di amministrazione, con tutto rispetto. Io Tremonti, ho criticato e criticherò Tremonti su alcune scelte, ma che Giulio sia un galantuomo, io non ho mai messo in dubbio, non lo metto in dubbio ancora oggi. Allora, abbiamo il traffico, 800 24 00 24, devo dare il traffico. Non ti preoccupare Giulio, va tutto bene, non ti preoccupare. Bene, siamo qui alle 18.47, la Zanzara, con Davide Parenzo in collegamento da Roma, il sottosegretario alla difesa Guido Crosetto, arcinoto per essere un nemico politico naturalmente, per le scelte che fa di Tremonti. Tempo fa qui da noi alla Zanzara disse che Tremonti ha un po' il braccino corto su questa vicenda della casa. Senta, Crosetto, ma la questione dello spionaggio, no? Questa va chiarita. Quella è la cosa più grave. Cioè, la cosa più grave in che senso? La cosa più grave delle dichiarazioni di Tremonti oggi è che il ministro dell'economia abbia detto: non stavo in caserma presso la Guardia di Finanza perché avevo paura di essere intercettato, fotografato, seguito. Cioè, questa è un'affermazione gravissima. Cioè, in qualunque Stato democratico questa affermazione risuonerebbe, rimbomberebbe in tutto il paese, perché significa che il ministro dell'economia, da cui dipende la Guardia di Finanza, pensa che la Guardia di Finanza, in modo illegale, perché non sarebbe legale, potrebbe metterlo sotto controllo, spiarlo, seguirlo, al punto tale di dover uscire dalla caserma Guardia di Finanza. Io passo le mie giornate 12, 13, 15 ore al giorno a Palazzo Esercito, non mi è mai venuto il dubbio che qualcuno delle forze armate o dei carabinieri potesse spiarmi, e mi sento più tranquillo lì di quanto sono a casa, dove tra l'altro ho subito un sacco di furti. Ed è gravissimo il fatto che l'abbia detto in un'intervista. No, non è grave che l'abbia detto, è grave che lui pensasse questa cosa al punto di andarsene. Cioè, è grave non nei suoi confronti, è grave nei confronti contro un'istituzione, la Guardia di Finanza. Questa è una cosa. Ho capito, ma lui ha fatto male a uscirsene in questo modo o doveva farlo in maniera più istituzionale? Cioè, lo si fa in un'intervista, si fa al contrario qualche quello che pensa, ha fatto bene a dirlo. Quasi. Però, questa cosa dovrebbe essere. In un paese in cui il ministro dell'economia sì. non si fida della Guardia di Finanza, a me dà dei problemi. Dunque adesso cosa deve succedere? Si figuri, io, lei è Parenzo o qualunque cittadino italiano, cioè, solo per capire. Sì, sì, certo. Se la Guardia di Finanza è pericolosa a questo punto per il ministro dell'economia, beh, adesso la notizia è una notizia sconvolgente. Clamorosa, quindi, però non viene trattata in maniera così clamorosa come lei dice. In queste... un paese in cui siamo abituati che tutti guardano tutti spiano tutti, per cui è normale che lo faccia anche la Guardia di Finanza. E dunque cioè, adesso cosa dovrebbe succedere? Cosa chiede Crosetto, sottosegretario alla difesa? Ho in mente un paese in cui chiunque sia un delinquente debba avere paura dello Stato e sì. chiunque viva normalmente non debba avere paura che ci sia qualcuno che lo spia nel letto, o lo spia in casa, o lo spia in qualunque attività faccia. Cioè, mi sconvolge pensare che il ministro dell'economia, nello svolgere il suo ruolo di ministro dell'economia, avesse paura di essere spiato. Ma non si rivolgeva secondo lei a Berlusconi, per esempio, spiato per conto di qualcuno? Non c'è un riferimento a Berlusconi? Ma perché non penso che la Guardia di Finanza. Beh, riferimento velato, sa, si fanno delle affermazioni anche. Si usa. Si è parlato di una guerra interna alla Guardia di Finanza. Guardi, io sono mesi che leggo di guerra interna alla Guardia di Finanza, ho letto alcune dichiarazioni di Milanese, questa è una cosa su cui io mi auguro che il Parlamento, il governo, qualcuno ragioni. Ma d'altronde, no, ma l'ha detto Tremonti oggi, silenzio, Tremonti ha confermato questa cosa. Guardi, se devo essere in silenzio, neanche tanto in silenzio, qualche mese fa, quando fu cambiata la legge che prevedeva che il comandante generale della Guardia di Finanza. Sì, sì, lei ha già detto, era sbagliato il fatto dell'esercito, sì. Io allora mi opposi dicendo: guardate che la Guardia di Finanza sì. ha troppo potere. C'è una differenza sostanziale tra la finanza, i carabinieri, la polizia o le forze armate. La Guardia di Finanza è l'unica tra le forze di polizia sì. che può agire senza autorizzazione. Ho capito, cosa deve seguire adesso dopo questa bomba di Tremonti lanciata dalle colonne di Repubblica? Cosa deve seguire? Cosa deve succedere? Tremonti ha detto in tutta franchezza: non me la sentivo più di tornare in caserma, per questo a un certo punto ho accettato l'offerta di Milanese, l'ospitalità di un amico, perché mi era sembrata la soluzione per me più sicura. Cioè non si sentiva sicuro a casa sua, in mezzo a funzionari dello Stato. In un paese normale, civile e democratico, le istituzioni, cioè Camera e Senato, fanno una commissione che va a verificare queste cose, a capire se ci sono dei problemi di questo tipo all'interno. Beh, ma doveva essere più chiaro anche lui, anche Tremonti, o no? Beh, ma questo dovrà esserlo davanti al Parlamento. Io mi auguro. Allora, vada in Parlamento a spiegare cosa e quali sono i suoi sospetti, perché non si possono lanciare. Andare anche in procura. O no? Ma intanto in Parlamento stiamo parlando di libertà di istituzioni. Se un ministro della Repubblica, cioè voi non un ministro di serie A, B o C, certo, ministro, certo, certo, un certo. ministro che gioca la Champions League sì, da sì, anni, sì. Tremonti ha paura, beh ragazzi. Allora, beh, però scusi, se io cittadino o anche politico, guardi, ma io adesso, penso di essere spiato, vado subito in procura e denuncio. Scusate, tutto, Parenzo, subito. Per dire una cosa pesante, smetto di scherzare come faccio normalmente con voi. Sì. Ma voi non pensate che mentre io dico queste cose sulla Guardia di Finanza mi sento tranquillo? In che senso, scusi? Cioè, no. Nel senso che nel fare queste semplici affermazioni sulla Guardia di Finanza non mi sento tranquillo. Cioè non mi sento libera di farle tranquillamente come le farei su un partito politico, sull'arma dei carabinieri, sulla polizia. Beh, non mi sento in questo momento lei non è che ha detto qualcosa di particolare. Ha detto... Beh, lo so, ma nel senso che la cosa che pensa Tremonti... La pensa anche lei? Secondo me non è una cosa lontana dalla verità. Cioè davvero ci sono delle parti della Guardia... Grande il potere della Guardia di Finanza è troppo incontrollabile. Troppo grande, troppo incontrollabile, cioè sugli italiani, lei dice, sulle singole persone, le capacità di entrare nella vita delle persone. Lo ripeto, non un carabiniere, un poliziotto non può indagare nessuno se non con un magistrato che lo manda. La Guardia di Finanza per motivi fiscali può fare qualunque cosa. Cioè ha in mano il paese. All'interno. L'organizzazione dei carabinieri e della polizia è un'organizzazione provinciale, per cui nella totale indipendenza ogni provinciale gestisce le cose. L'organizzazione della Guardia di Finanza è verticistica. Cioè Roma sa tutto e in qualche modo decide come si muove. Questo è importante. Questa è una riflessione che in qualche modo va fatta, che io feci quando si trattava di decidere se il comandante della Guardia di Finanza poteva essere o no interno, e sì. allora mi trovai da solo col mio collega Cossiga a fare una battaglia che poi parleremo. Mm. Ma adesso, ma andrebbe smilitarizzata, il tema si ripone e deve riporsi al parlamento. Ma perché lei ha paura di fare questo? Perché lei ha timore? Io so che da domani sarà qualche finanziere che probabilmente si occuperà di me, per carità, mi lascia tranquillo, ma non lo faccio con tranquillità. Cioè non è un'affermazione che farei, cioè, con tranquillità ho detto che la manovra di Tremonti mi sembrava psichiatra senza problemi. Sì, con tranquillità sì. Ho criticato chiunque mi interessa criticare, questa la faccio sapendo che vabbè, a mio rischio e pericolo, e lo dico in modo che rimanga in diretta. Quando lei dice, quando lei è dice forte sta cosa, sì, sì, perché... quando lei dice scusi Crosetto, quando lei dice incontrollabile, in realtà c'è una, anche lì c'è una, no, una gerarchia, no? Chiaramente all'interno della guardia c'è una gerarchia strana, perché mentre comunque le forze armate, sì, no? Sì, hanno una gerarchia chiara e in qualche modo dipendono, vanno a dipendere poi dal ministro della difesa, no? Abbiamo una gerarchia militare, sì, no? Questa difesa, come vale lo stesso per me, come i sottosegretari, sì, sì, hanno un ruolo nella gerarchia, no? Quindi, come c'è la Presidenza della Repubblica, è il capo supremo delle forze armate. La guerra di finanza, in teoria e di fatti in questi giorni la polemica è uscita, dice, ma perché Berlusconi parla con il comandante della guerra di finanza? Come mai? Cioè, perché non esiste una gerarchia, no? Sì. Cioè, la dipendenza funzionale, che è un'altra cosa. Per cui dunque lei ha paura. Non dovrebbe neanche parlare col capo della guerra di finanza, come non dovrebbe parlare? Allora a chi risponde? Ma quanta paura ha? Cioè, ha paura che possano... No, no, vabbè, ho capito, è un ragionamento, ma è una cosa con cui parlo a cuor leggero. So benissimo che in questo paese se qualcuno dice qualcosa su quella di finanza rischia di pagarla, punto. Cioè, e possono fare di tutto, questo dice. Sì, possono fare di tutto. Possono farle di tutto. Farmi di tutto, cioè, se parlo vuol dire che mi sento tranquillo e libero, però cioè, non lo faccio con leggerezza come do altri giudizi politici con tranquillità. Allora, intanto andrebbe smilitarizzata la guardia di finanza, allora andrebbe smilitarizzata. Ma non è questo il punto civile. Il punto non è questo. È una riflessione che quella si può impostare, cioè adesso ci sta una riflessione e questa affermazione di Tremonti aprono qualunque prospettiva. Capito, smilitarizzare la guardia di finanza, vecchia proposta radicale, ma che... Oppure ritornare al fatto che la guerra di finanza abbia un vertice che non arriverà alla finanza. Quelle guerre di cui parla Milanese, se voi vedete, se ne parla per la successione attuale. C'è una notizia arrivata adesso: la Lega ha sospeso Borghezio dal partito per 3 mesi. No. Per 3 mesi, esatto, e lo ha sospeso anche da presidente del Carroccio in Piemonte. Cosa significa la sospensione per 3 mesi? Non si capisce. Comunque c'è stata una punizione per quello che ha, detto qui alla Zanzara. Vabbè, Crosetto, portate buono voi due. Non portiamo bene, lei dice. Mica colpa nostra adesso, scusate. Non esageri, anche lei comunque con la guardia di finanza stasera non ci è andato leggero, devo dire la verità. Sì, difatti non sono andato leggero, però sai, non ho detto cose come quelle di Borghezio, io faccio le riflessioni serie. No, vabbè, adesso sono due campi diversi, come dire, no? Senza entrare... Per sicurezza si tocchi a carne, per sicurezza. No, in che senso, scusa? No, dico perché se no poi dice che portiamo male, non portiamo male, portiamo notizie. No, scusi Crosetto, però lei dice la riflessione dovrebbe essere sulla guardia di finanza, perché io non parlo della guardia di finanza con leggerezza, come quando parlo di Tremonti, perché ho paura. Dopo aver sentito le cose che ha detto Tremonti, lei si sente tranquillo, no? Dico, stiamo parlando del ministro dell'economia. Comunque vada in Parlamento a chiarire tutto, questo si può dire? No, io penso che... Beh, lei l'ha detto prima, vada in Parlamento, dovrebbe andare in Parlamento a chiarire questa storia. Questa affermazione vada chiarita dal Parlamento. Sì, sì. Dunque Tremonti, procura, però, con Tremonti presente. Non soltanto ascoltando Tremonti, cioè, ma il Parlamento deve in qualche modo chiarire questa cosa. C'è il pericolo che sia un'organizzazione autonoma al punto tale, libera al punto tale, da far scappare da una caserma di guerra di finanza il Ministro dell'Economia... Cioè, questo è un tema che riguarda tutti i cittadini. Assolutamente, certo, assolutamente. Certo, dobbiamo chiudere. Grazie a Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa. Noi non ci sentiamo spiati dalla Guardia di Finanza, Parenzo. Ti senti spiato dalla Guardia di Finanza? Però... Amico mio, non c'ho una lira. Che mi fa che no, mi vabbè, non è solo quello. Non è il problema, non sono mai i soldi. E che cos'è invece? I ricatti, cos'è? A me darebbe fastidio essere spiato, non dalla Guardia di Finanza, darebbe fastidio essere spiato da chiunque, vicino con un carabiniere. Ho capito. Poi non vi racconterò, ma io un'esperienza nella mia vita. Dopo ce la racconta. Pubblicità. E a questa volta. Eccoci, 1917 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Fra poco ci ricollegheremo anche con Davide Parenzo, come sempre in questo ultimo giorno prima di tre settimane di vacanza per la Zanzara. Però ci sono i titoli, i titoli che incombono, i titoli del TG3. Sentiamo come il TG3 di Bianca Berlinguer affronta l'attualità, come al solito introdotto il TG3 dalla voce vellutata, nuova, giovane, bella di... chi è? Che mi ricordo? Non mi ricordo più niente. Chi è? Sabina Began. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Berlinguer. Processo lungo, sì del Senato alla fiducia posta dal governo, proteste in aula delle opposizioni, il CSM, una legge che ci allontana dall'Europa. Tremonti, sulla vicenda della casa ho commesso errori, illeciti mai, mi trasferii in quell'appartamento perché in caserma mi sentivo spiato. Tra quattro giorni il governo degli Stati Uniti non avrà più soldi per stipendi e pensioni, Obama invoca il compromesso, ma i repubblicani sono divisi. Dopo sette anni di governo, il primo ministro spagnolo convoca elezioni anticipate per il 20 novembre e conferma: io non sarò candidato. Il governatore della Sardegna, Cappellacci, restituisce la tessera del PDL, protesta contro le decisioni del governo su entrate e Tirreno. 17 famiglie da oltre due anni vivono in un asilo abbandonato a Napoli, la prossima settimana rischiano di essere sfrattati anche da lì. Un'altra notte di scontri in Val di Susa, al cantiere per l'alta velocità, pietre e bombe carte lacrimogeni, sei agenti feriti, domani un nuovo corteo. Grandi polemiche intanto sul cosiddetto processo lungo con l'Associazione Nazionale Magistrati, che dice che è inaccettabile perché favorisce i criminali, addirittura scende in campo, così si dice in questi casi, Famiglia Cristiana, che dice che favorisce la mafia. Vabbè, eravamo rimasti un po' curiosi di sapere da Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa, qual è l'esperienza personale cui ci accennava prima, di cosa si tratta con la finanza? Mi autocensuro. No, come si autocensura? Cioè, no, ha già detto troppo, dice. Ma sì, mi autocensuro. Qual è l'esperienza personale? Cosa? Qual è l'esperienza personale? Vabbè, chi devo tirare? No, lasciamo stare. No, no, ma ormai ci siamo qui, l'abbiamo richiamata, eccetera. No, essendo molto grave, ed essendo la fine... E appunto, è importante saperla, e non possiamo, ormai siamo rimasti appesi così, Crosetto. Qualcosa bisogna... Vabbè, guarda, ti racconto, vabbè, può essere significativo, sì. Vi faccio questo, faccio un regalo non a voi, al paese. Sì. Qualche anno fa, sì, io subì una serie lunghissima di furti, sia in ufficio, in azienda, computer, dischette, sia a casa. Sì, me lo ricordo, anche a casa in campagna. A casa, sì, a casa, poi vabbè, lascio sì. Per quelle a casa. Sì. Mi riferiscono a quelle in ufficio. Poi, dopo qualche mese dopo alcuni di questi furti in ufficio, io ancora adesso ce l'ho, ma ho sempre avuto un ufficio Alba dove ricevevo la gente il sabato, che è aperto tutta la settimana con la segretaria. Sì. Ho ricevuto due sottufficiali. Questi sottufficiali vengono da me e dicono: vogliamo dirle una cosa, guardi. Finanzieri? Due sottufficiali, diciamo. No, è questo il punto. Dei suoi dischetti sono nella cassaforte del comandante provinciale. Scusi un attimo, Crosetto, comandante provinciale di cosa? Della Guardia di Finanza. Dunque erano due finanzieri che sono venuti. Uscì dall'ufficio. Sì. Andai, il tribunale è vicino, al procuratore della Repubblica, dottor Ricco Magno, espose i fatti a lui, lui si attivò immediatamente, andò negli uffici del comando provinciale, fece aprire la cassaforte e trovò i miei dischetti, più un'agenda di un allora assessore regionale del PD che era stata persa mesi prima. Questa è una vicenda. E in virtù di cosa il comandante aveva nella sua... Poiché è un po' inquietante, e lasciamo alla fine senza fare nulla questa vicenda. No, ho capito, ma poi ha chiesto lei spiegazioni del perché i dischetti fossero arrivati fino a lì? Ho lasciato nelle mani al procuratore, ho detto questa cosa, poi non mi sono più interessato, avendo verificato la cosa. Ma quello mi inquietò già allora, no? Ma quei dischetti poi sono tornati in suo possesso? Erano dischetti inutili, probabilmente cercavano cose per farmi, perché cercavano chissà che cosa, non trovarono nulla. Cosa cercavano? Qualcosa per ricattarla? Per, non ho idea, non lo so. Per tenerla sotto scacco? Bisognerebbe chiederlo a chi le aveva. Cioè, lei dice, dai furti sono arrivati, cioè rubarono a casa sua e poi... In qualche modo una parte di quelle cose arrivarono lì. Quindi è un esempio significativo di come in questo paese succedono cose strane, no? E da questo episodio che tipo di riflessione fece all'epoca? Cioè che in tutte le organizzazioni, da quelle più serie a quelle meno serie, ma quelle di finanza un'istituzione seria, sì? La polizia, c'è di tutto. C'è il santo, c'è quello che è disposto a morire e c'è quello che invece pensa che il modo con cui si svolge il proprio compito può essere un modo, non diciamo, ortodosso. Quindi, però dal punto di vista poi giudiziario questa cosa non ha avuto nessun tipo di strascico. Non ho neanche insistito. Però lei dice, in particolare, a differenza di altre organizzazioni, la Guardia di Finanza sembra in alcuni momenti incontrollabile. No, a differenza delle altre forze di polizia, sì, per agire, per fare indagini, per sviluppare, non ha bisogno di un giudice che gli dica inizia questa indagine. Può muoversi autonomamente per motivi fiscali. Un suo collega del PDL, adesso sto parlando di un'altra cosa. Se lei si ricorda, c'è una frase latina, sì, su cui i latini basavano poi le loro regole, che dice quis custodes custodes. Traduca per tutti. No, chi si occuperà di difenderci da quelli che devono difenderci, no? Adesso l'ho tradotta molto liberamente, cioè, sì. Chi dice questa cosa è da quelli che devono custodirci. Questa, no? Cosa è particolarmente applicabile alla Guardia di Finanza. E nel caso della Guardia di Finanza, non perché ce l'abbia con la Guardia di Finanza, non ce l'ho, anzi non ho niente in contrario, anzi sì, sono persone che rispetto, affronto le guardie, mi inchino, non ha controlli e si può muovere liberamente. La libertà di movimento per qualunque organizzazione che ha il potere di penetrare la vita privata delle persone, per certi versi ci possono anche essere... Però è meno controllabile di altre. Parenzo, sei tornato? Tornato a lottare come un leone con voi. Allora, alla fine Borghezio va in onda perché chiaramente questo provvedimento della Lega, certo, metteva in dubbio la partecipazione, perché spieghiamo che la sospensione di 3 mesi di qualsiasi personalità politica in teoria dovrebbe impedire a questa persona di rappresentare quel partito anche in televisione, però poi ci spiegherai meglio. Non so se hai sentito quest'ultimo racconto che ci ha fatto Guido Crosetto, sottosegretario della difesa, ma forse non eri in collegamento. No, il dramma Borghezio. Crosetto ha detto che qualche anno fa aveva subito dei furti e poi ha scoperto che dei dischetti che gli erano stati rubati si trovano nella cassaforte del comandante provinciale, credo, se non sbaglio, se non ricordo male, della Guardia di Finanza. Beh, una cosa pazzesca. Lui ha attivato la Procura della Repubblica naturalmente e poi però si è disinteressato dalla vicenda. Sarebbe curioso capire se la vicenda poi è stata chiarita, cioè perché questi dischetti sono finiti proprio lì, chi ha commesso quel furto. Lei non se n'è più interessato, Crosetto? No, non mi sono interessato. Il processo lungo arriverà alla fine? Non so, non gliene frega niente. Poi però vi ho reso troppo seria la vostra trasmissione. La trasmissione è bella perché Lo so, è troppo seria, non voglio intristirla troppo con l'ultima puntata prima di Natale. Quindi vabbè, grazie. Grazie. Un abbraccio non troppo forte. Sempre con la Smart, no? Sempre con la Smart. Ma adesso sono a Cuneo, sono a piedi. A Cuneo. Dove vai in vacanza? Ma ancora non c'è la vacanza. Ma dove andrà? L'idea di trovarmi lei davanti in vacanza. No. Ma dove andrà? Dove andrà? Mi provoca con le domande. Dove andrà? Vado con mio figlio e i miei nipoti. Ma dove? Ma non c'è la. Non vuole essere. Non ha paura che magari qualche finanziere lo pedini. Finanziere o fidanzata? Se mi pedina in vacanza si annoia. grazie a Guido Crosetto. Grazie. Eccoci qui, 19:27. È bello che ci dice pure, beh, vi sto annoiando troppo. E effettivamente dopo un po' ci si può anche annoiare in queste cose. Però erano hai il senso della trasmissione. C'è stava a distruggere la trasmissione, c'è stava a ammazzare la trasmissione. No, in realtà no. È stato un momento di un complotto contro di noi. Qualcuno ci voleva uccidere ieri. Chi era? Chi era? No, abbiamo fatto un collegamento con il Partito Democratico. Ah, mamma mia, non me ne parlare. Simone, non era ieri sera, l'altro ieri. Simone dalla provincia di Lecco, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera. Niente, ho appena sentito la notizia lì della sospensione di Borghezio, massima solidarietà a Borghezio. Ecco. Cioè, a parte che ormai è passato qualche giorno, ma poi ha chiesto scusa alla Zanzara. Oggi è andato all'ambasciata. Alla Zanzara, adesso non esagerare, ha chiesto scusa alla Norvegia tramite la Zanzara. Tramite la Zanzara, ovvio. Oggi è andato, non ho capito il provvedimento della Lega. Cosa beh, la Lega ha qualcosa per l'opinione pubblica, siccome è una cosa che ha danneggiato, non c'è dubbio, l'immagine della Lega. La Lega, il Consiglio federale, come il diavolo si chiama, qualcosa doveva tirar fuori. Sospensione di 3 mesi. Vabbè. È una sanzione forte, David? Non ha grandi precedenti questa cosa, la sospensione di 3 mesi peraltro, vabbè che ci sono le vacanze estive, quindi, però bisogna vedere cosa comporta, perché vuol dire che non può rappresentare, come hai tu ricordato giustamente, il movimento, cioè teoricamente non ci può essere scritto eurodeputato Lega Nord, dovrebbe stare zitto, non lo so, è complesso, è una iniziativa curiosa. Sì, curiosa. Insomma, un po' è un buffettino, è un piccolo buffetto, però certamente tu hai ricordato che non ci sono altri precedenti. No, non ricordo, no. O c'è stata l'espulsione di Rocchetta nel passato. Sì, o si arriva all'espulsione, però si è già fuori dal movimento. In quel caso sono persone fortemente critiche nei confronti anche della leadership, eccetera. Beh, ci stiamo un po' annoiando, troppi discorsi seri. Borsa, torniamo subito. 800 24 00 24. Perdono. Rivolgo un pensiero addolorato e partecipe alle vittime della strage di Oslo, ai loro cari e a tutto il popolo norvegese, esempio di grande civiltà. Mi rammarico e mi scuso se le mie parole, certo male interpretate, mi avessero offeso la sensibilità e il dolore. Con affetto e sincera partecipazione, Mario Borghezio, deputato Nord. Io sento il dovere di esprimere rammarico e chiedere scusa se queste mie considerazioni, questi miei ragionamenti hanno potuto essere interpretati in senso offensivo, anche soltanto larvatamente verso le vittime della strage. Dunque lei chiede scusa alle vittime della strage, al popolo norvegese, al governo norvegese? E al popolo norvegese, certamente. Non è bastato, non è bastato, caro David, non è bastato a Borghezio, non è bastato a Borghezio quello che abbiamo sentito, le scuse questa mattina di fronte alle telecamere della 7, dentro l'ambasciata norvegese, tutto in diretta questa sera alle 20.30, con la presenza confermata dallo stesso Borghezio, ma voi rimanete alla radio almeno fino alle 21, naturalmente, non vi invito ad andare sulla 7, quello è normale, però se volete potete fare entrambe le cose, no? Sì, ascoltate con un orecchio, no, ascoltate la radio intanto, dai, poi dopo si può fare la radio in televisione. Non sono bastate queste scuse, 3 mesi di sospensione per Mario Borghezio e anche la decadenza, chiamiamolo così, dalla presidenza della Lega Piemonte. La frase clou, la frase che ha condannato Mario Borghezio a questa sorta di purgatorio, a questa sorta di periodo di vacanza. 3 mesi, poi che cosa vuol dire 3 mesi di sospensione? Bisognerà chiarirlo, non può parlare, però no, perché stasera parla, oppure inizia da domani la sospensione, cioè, non lo capisco. No, non si capisce. Ma meno male che, naturalmente lo dico per voi, idee buone, in qualche caso ottime. Buone alcune delle idee espresse al netto della violenza, direi in qualche caso ottime. Questa è la frase clou, qualcuno ha scritto sul web... Ha creato un nome straordinario, Borghevic. Borghevic, bellissima Borghevic. Borghevic. Ma stasera che fai? Ridi e basta, che fai? Ridi? No, sto riflettendo, ho finito di montare adesso il pezzo, quindi sto limando delle cose, rivedendolo assaporo quello che vedrete stasera. Vabbè. Borghezio per le strade di Roma, diciamo, no? Bello, bello questo Borghezio che in realtà anche oggi non è che si è fermato nella sua attività politica e ne ha dette di tutti i colori nei confronti del sindaco Alemanno. Ma insomma, io sono rimasto ancora scioccato da quello che ha rivelato prima il signor Crosetto, Guido Crosetto, sottosegretario alla difesa. Sentiamo qualche ascoltatore. Antonio da Roma. Antonio? Pronto? Sì, eccomi qua, dottor Cruciani. Buonasera. Pronto? Dica, dica, sente? Antonio, siamo qui. Sì, senti, sì, io sono uno di quelli che lavora per la Guardia di Finanza. Sì. Sottufficiale. Sono un sottufficiale, quello che lavora tutti i giorni per i signori onorevoli. Beh, non è che lei lavora tutti i giorni dalla mattina alla sera per loro. Ma non è che lei si fa il culo per loro, Antonio? Sì, faccio per loro e per gli italiani, soprattutto per gli italiani. E quello che ho sentito dall'onorevole Crosetto è molto grave. E fa male alla difesa. Perché, scusi? A tutti. A tutti. Non si fida della Guardia di Finanza, non si fida delle forze dell'ordine. Io sono stanco di queste persone così. No, della Guardia di Finanza. Pensassero a lavorare. No, scusi, Antonio. Lei pensassero a lavorare. Lei fa il sottufficiale della Guardia di Finanza. Il signor Crosetto fa il sottosegretario alla difesa. Sì, appunto, non ha detto, non ha detto che tutti i finanzieri sono dei delinquenti. Ha detto che lui non si fida. Andate a casa sua a fare i furti, a prendere i dischetti. No, questo non l'ha detto. Il comandante provinciale è andato dal procuratore e non ha fatto niente. Antonio, cose gravissime. Adesso vedremo se sono gravissime o no. In ogni caso, ma non sicuramente è che il sottosegretario mo mi fa trasferire. Esagerato. Lo aspetto già. Però, amico mio, la questione è molto semplice. Cioè, si possono mettere in discussione i corpi dello Stato in una democrazia compiuta come la nostra o no? O ci sono corpi intoccabili? Oh no! Ma non lo deve fare il radio. Io è quello che voglio dire. Ma che significa non lo deve fare il radio? Ma dove lo deve fare? Nelle tante segrete del potere? Nelle sedi opportune. Se c'è qualche problema, lo fanno nelle sedi opportune, non che sparano a destra e a sinistra, quello così, quello cos'ha, quello là, quello sopra e quello sotto. Vabbè, Antonio, adesso non possiamo, non è che siamo qui a fare il processo a Crosetto. Lei ha sentito Crosetto, si è sentito toccato in quanto finanziere, in quanto sottosegretario, esatto, sì, e in quanto sottufficiale. In quanto sottufficiale, però Antonio, non è che ce l'aveva. Come sono andati a casa sua a fare i furti. Vabbè, adesso Antonio. Ma non ha detto questo, ha detto che sono stati ritrovati dei dischetti nell'ufficio di un signore della finanza. E che, il che ha detto è curioso, voleva sapere come sono finiti là. E questa è la domanda. No, ce l'avrà portati lui perché lui non lo sa. Lui non sa niente, non si è meno degnato di sapere come è andata a finire la storia. Non sa come va a finire il processo lungo, il processo breve, non sa niente di niente. Vabbè, Antonio, adesso. Onorevole, che non sa niente. Guardi, che se deve rivolgere queste critiche a Crosetto, non è la persona giusta. Perché infatti, perché non c'è, perché se c'era, glielo dicevo direttamente a lui. No, ma lo so benissimo. Lei non mi sembra uno che appelli sulla lingua. Non mi sembra che uno. Però Antonio, guardi che non ce l'aveva con tutto il corpo della Guardia di Finanza e con i finanzieri. Cioè, ha detto che ci sono dei problemi che riguardano il controllo del corpo intendo della Guardia di Finanza, dei problemi che riguardano l'invasività, i mancati, chi controlla i controllori. Suoni, ma che roba è? Che è successo? Che succede? Suoni un attimo qui, ma questo branco di idioti. Ma chi è? Chi è? Chi è? Hanno bloccato tutto. Ma cosa? Che è successo? Alla stazione Termini sono su un taxi. C'è uno che si è messo nel mezzo. Aspetta un attimo, scendo, prendo tutto. Faccia con comodo, tanto qui la gente non deve partire. Ma pensa a te, cretino. Ma a chi ti stai rivolgendo? Scusa, con chi ce l'hai? Andiamo avanti. Suoni qui. Chi era questo qua? Non c'è. Questo qua chi è? C'è, eccolo. Ma si può essere più idioti o no? Vabbè. Peripezie di Parenzo, ce ne occuperemo più avanti delle peripezie di Parenzo. Stefano da Roma, buonasera, grazie Antonio, grazie di averci chiamato. Stefano, sempre da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io ho telefonato proprio per parlare, come posso dire, inserirmi nella discussione relativa alla Guardia di Finanza. Sono un commercialista e preferirei appunto non dare altre indicazioni. Le posso dire che effettivamente c'è un potere molto molto ampio della Guardia di Finanza e la tensione quando c'è un controllo dalla parte della Guardia di Finanza è molto alta, perché sono sia si presentano anche loro in modo da, come posso dire, intimorire, perché sono coscienti di questo potere che hanno, e nello stesso tempo gli stessi contribuenti si trovano in grande difficoltà. Non c'è un controllo, è vero, come dice l'onorevole Crosetto, che è un corpo molto autonomo. Posso dire che molte volte si ha a che fare anche con persone scarsamente preparate, però che hanno un potere di decidere la tranquillità di un imprenditore, di un professionista, perché capisce bene che quando si va a attaccare il lato finanziario di un'impresa, di un contribuente, le conseguenze... No, guardi Stefano, però dire che la Guardia di Finanza ha un grande potere è scontato, insomma, è normale. Bisogna vedere come lo si esercita questo potere. Parenzo, che sta succedendo? Ma niente, era tutto bloccato alla stazione Termini perché un signore aveva parcheggiato in mezzo alla corsia dei taxi e non si riusciva. Però detto, gente che viaggia, normale. Detto con tutto il rispetto, naturalmente, per il fatto. Dove stai andando a prendere il torpedone? No, il torpedone non posso più prenderlo. Adesso vi faccio tacere dai treni. Se mi aprono qua, aprite. Vittorio da Milano, buonasera, signor Vittorio. Che disastro, eccola. Due sole cose, ma cosa hanno fatto di male gli ascoltatori della Zanzara per sorbirsi Parenzo? Me lo chiedo anch'io ogni tanto. Ti ho dato, Parenzo, ti ho dato in pasto subito una persona con cui ti puoi sfogare. Sfogati con questo signore. Seconda cosa. Sì. Chi è? Ho solo una cosa da dire a Parenzo. Chi è? Sì. A casa. Poco. Una terza cosa. Beh, io ritengo. Sì, resti lì, poi non scappi dopo. Resti lì. Non mi interrompa. Penso che fosse meglio Luca Telese. Sì, benissimo. Pensi un po' dove arrivo. Non scappi, però, resti lì. Non scappi, caro Vittorio. No, non scappo, sto qui, anzi. Non scappi, banale. Non scappi. No, banale copione banale. Parenzo, che dici? Nessun copione. La sento tutte le sere. Bene. E mi chiedo. Come si fa? Lei è masochista, Vittorio. Il masochismo è la forma più straordinaria di ascolto della radio. Quando uno ascolta la radio c'è una forma di masochismo ogni tanto che nasce, un masochismo che è particolare, assolutamente. Io lo odio. Eppure... Il masochismo riguarda chi? Riguarda lei, abbia pazienza. Ah, no, mi dispiace, ma io non sono per niente masochista. Beh, mi sa di sì. Siccome penso che la pensino così come me tantissime persone, io dico, ma dove l'avete pescato sto Parenzo? Ma chi è sto Parenzo? E ride. Sì. Perché mi fa ridere sta cosa? Cioè, voi state squalificando quella magnifica invenzione che è la Zanzara. E infatti lei ascolta ogni sera? Come mai? Ogni sera. E come mai? Perché nonostante tutto non è ancora così squalificata da non poterlo sentire. Ho capito. Però rifletta bene. Questa presenza di Parenzo a lei provoca un tale disgusto che non proverebbe se non ci fosse Parenzo. Dunque, in qualche modo, questa presenza lei è attratto da questa presenza, capito, Vittorio? No, Cruciani, non esageri, è che guardi. Non è che provo disgusto, non provo nessun disgusto. Beh, non esageriamo. Guardi, per comunicarci questa cosa, il disgusto deve essere arrivato abbastanza in alto. Ma neanche per sogno. Che cosa ho comunicato? Ho comunicato perché l'avete inserito in una trasmissione così. Vabbè, bella, adesso non la facciamo. Come Parenzo. Non la facciamo questo lunga. Questo non vuol dire disgusto. Vittorio, io non solo la abbraccio, ma io l'amo. Dialetticamente l'amo. Ha capito? Bene, Fausto. Io vorrei fare le vacanze con lei, vorrei fare 15 giorni a Ferragosto. Cosa ha detto? Voglio fare 15 giorni di vacanza con lei a Ferragosto, io e lei da soli in vacanza. Ha capito, Vittorio? Cosa mi ha detto di andare in vacanza? No, ma ragazzi, parlate più forte, avvicinate sto cavolo. No, perché io sento bene lei, ma non sento bene Parenzo. È il solito problema, naturalmente. No, ho detto che voglio fare una vacanza con lei per 15 giorni a Ferragosto. Va bene, se vuole. Ha capito, Vittorio? Io e lei da soli. Solo io e lei. Sai perché ho detto perché no? Può darsi che cambi idea. Ah, ecco, mi sa che lei potrebbe cambiare idea. Sì, potrebbe... ma per il momento la mia idea è quella. Va bene, okay. grazie Vittorio, saluti. Grazie. Saluti. intanto questo è accaduto ieri sera alla Zanzara, di fronte a un basito Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega alle politiche antidroga. Sentite. Mi sono stufato adesso. Dimmi, che stai facendo? Mi fumo una canna adesso, guarda un po', tiro canna. Fuori, questo mi fumo una bella canna. Ma è pazzo? Posso farmi una canna? No, non è pazzo, io dopo sono obbligato a fare una denuncia, una posta. Che denuncia poi... fai? Io mi fumo una canna adesso. Ma che stai facendo? Ma sul serio lo denuncio. Cioè, mi fumo una canna. Io se fossi in un paese retrogrado come gli Stati Uniti... Mi fumo una bella canna, venga qua. Nel momento in cui l'accendo ti ha 6 mesi di carcere. Ma che 6 mesi? Ah, lei... Io a Washington. No, ma che stai facendo? Sul serio? Non posso farmi una canna? Ma sei impazzito? Ma avvertimi prima di fare queste cose. Guarda la faccia che c'è. Ragazzi, state bene. Ci vediamo. No, no, no, no, no, perché se ne va? Perché se ne va? No, le provocazioni idiote e l'idea che si possa scherzare con gli spinelli che sono devastanti per il cervello. Ma lei la sa riconoscere se è marijuana? Aumentare no? Il consumo perché determina nei giovani la convinzione che fumare. Ma lei sa riconoscere se è marijuana o no? No, io riconosco uno che ha detto adesso mi faccio uno spinello in diretta e mi metto a fumare canna, è una cosa idiota. Allora se sono in una trasmissione in cui il conduttore chiede scusa perché dice è stata una provocazione senza senso, ci rimango, se no la trasmissione la fate per un altro. Questo è accaduto ieri alla Zanzara. Intanto andiamo a Milano. Federico, buonasera, sempre 800 24 00 24. Fra poco il nuovo sottosegretario all'ambiente Elio Belcastro di Popolo e Territorio, ex responsabile. Ecco, lo sapevo, dovevo concludere, dovevo chiudere con i responsabili, abbi pazienza, dovevo chiudere per forza con i responsabili. Non mi puoi togliere questa cosa qui, non mi puoi togliere questa cosa. No, qui. Per carità, perché lei è direttorissimo, può fare quello che vuole, giustamente. Va bene, allora, chi era? Federico? Federico? Federico? Federico? Ma chi è Federico? Ma che ne so, Alfredo dalla provincia di Roma. Sì, pronto. Buonasera, pronto. Dica. Buonasera, dottor Cruciani. Niente, volevo dire rispetto a anche all'andamento della trasmissione di stasera che lei tante volte si prende troppo sul serio. No, però. Guardi, io proprio sul serio non mi prendo, caro Alfredo, per cui lei proprio ha sbagliato percorso, ha sbagliato start. Allora se, prima, poco fa, lei ha detto stiamo parlando di cose troppo serie questa sera. Sì, ma era un gioco con Crosetto, abbia pazienza, Alfredo. Sì, è un gioco, però mamma Cruciani, mia, mamma mia. Ironia. Sia lei che Parenzo, che persone che stimo tutte e due come giornalisti assolutamente, però abbiate preso la via della banalizzazione che tracima. Senta, però io questa cosa qui non la stasera, dopo che Crosetto ha raccontato questa cosa, eccetera, io non la posso sentire questa cosa qua, Alfredo. Francamente non me ne frega niente di sentire lei che dice no, facciamo cabaret. Scusi Cruciani, ma nel momento in cui lei lancia sul tappeto un argomento come quello che può aver lanciato provocatoriamente Borghetti, è stato sospeso, eccetera. Allora risponda su questo, esprima la sua opinione su questo. Non stia a discutere sulla trasmissione, Cruciani, Parenzo qui. Esprima la sua opinione su questo e la facciamo finita. Discuto sulla trasmissione, nel senso che il radioascoltatore che cosa fa poi? Chiama. E interviene e spesso e volentieri sposta la questione più sulla polemica che nasce dal come vengono trattati gli argomenti piuttosto che rispetto alla sostanza degli argomenti. È evidente che se Borghetti ha detto una cazzata. Vabbè, Alfredo, però a me di ascoltare la sua esegesi di come si svolge la trasmissione a proposito di dichiarazioni di Borghezio, francamente non me ne frega nulla questa sera. Però se lei vuole continuare a parlarci del modo in cui affrontiamo l'argomento post Borghezio, ante Borghezio, eccetera, va benissimo. Però ci annoia in maniera mortale. Mi sto annoiando in maniera mortale. Io mi sono addormentato. Però questo è uno degli effetti e lo deve accettare. Di che cosa? Di un radioascoltatore affezionato che qualche volta si rompe le palle. Questo benissimo, allora perché lei si è rotto le palle? Mi spieghi perché si è rotto le palle? Perché trovo che sulla questione di Borghezio e sulla sortita di Borghezio la solita retorica del chiedere scusa eccetera eccetera sia una cosa che assolutamente è inaccettabile. Va bene, ma questo perché qua è un giudizio, è un giudizio non sulla trasmissione, su quello che ha fatto Borghezio, abbia pazienza. No, il giudizio però in qualche modo viene, come dire, annacquato dal fatto che poi in certe occasioni, quando si parla di fatti mi scusi, non voglio fare il serio, sennò poi lei mi dice che parla troppo serio. Quando si parla di fatti importanti, come quello che è successo in Norvegia, io credo che la serietà, tra virgolette, debba essere, come dire, una caratteristica imprescindibile. Ma io qui non abbiamo mai parlato della questione della Norvegia, perché è successo e come è successo. È un'altra trasmissione questa qua. Se lei non l'ha capito, mi dispiace. La ringrazio, Alfredo, e l'abbraccio forte. Molto forte. 800 24 00 24. Elio Belcastro, introdotto in questo modo. Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia, per padri e figli e per chi ancora verrà, per un futuro e per chi lo vorrà. Un solo allora, cuore, Belcastro? Sì, eccoci. Molto bella questa canzone. È bella questa canzone, Belcastro? Molto, molto. Beh, però non è il suo partito. Lei è di Io Sud, se non sbaglio. Di Noi Sud. Ah, Noi Sud, scusi, io mi sbaglio sempre. Ma però lei ci può ricapitolare la geografia di quelli che hanno il Sud nel cuore, diciamo così. Allora, c'è Noi Sud, che sarebbe lei. È una cosa patetica, lo sai, no? Arturo Iannaccone, Elio Belcastro e Americo Porfidia, siamo tre deputati. Sì. E ci siamo scissi, ahimè. Lei ride pure, perché giustamente. Sì, perché siamo piccoli, però poi si finisce per essere, come devo dire, eccessivamente litigiosi, molto veloci da parte di alcuni. Ce ne siamo accorti, insomma. Per cui abbiamo questo gruppo, insomma, che. Questo è Noi Sud, giusto? Questo è Noi Sud. Noi Sud. C'è la Adriana Polibortone. Che è Io Sud. Io Sud. Io Sud, e poi c'è. Gianfranco Micciche con Forza del Sud. Forza del Sud. Ecco. Abbiamo intenzione di. Con tre creare... Sud ne fate uno o no? Con tre Sud, sì, uno ne fate o no? E sì che lo facciamo. E sì che lo facciamo. Sì, c'è bisogno di una forza, credo, meridionalista all'interno del Parlamento. Beh, come se ce ne fossero pochi. Come se. Segretario, da 1 a 10 meridionalisti non ce ne sono, purtroppo. Ahimè, ahimè. Che dici, Parenzo? No, volevo chiedere al sottosegretario questo. Visto che è l'ultima puntata della Zanzara. Ma non è l'ultima, aspetta, ma cioè non è che è l'ultima puntata della Zanzara, è l'ultima puntata e poi torniamo tra tre settimane. Ma dico, sei pazzo? Per me è come fosse la fine del mondo, ma non importa. Chiedo al sottosegretario, quanto è patetica da 1 a 10 questa frammentazione patetica? Ma perché ti si sente male stasera? Perché ti si sente male stasera? Su quale telefono sei? Su quale telefono? Ma si sente malissimo, è un disastro assoluto. Voglio rispondere alla domanda. Risponda, Belcastro, risponda. Allora, è molto patetica. Io ho sempre detto. Cioè, che siete patetici, questa è la cosa. Mi riconosco di. Riconosco, siamo patetici. Vabbè. I meridionali spesso fanno la fine dei famosi capponi di Renzo. Cioè? Perché si beccano tra di loro e non sanno poi che li aspetta il forno, no? E allora credo che bisogna prendere coscienza di questo. Non vogliamo fare la guerra contro nessuno, siamo dei pacifisti. Vorremmo però che il Sud avesse una rappresentanza che sia prettamente meridionalista, per sedersi a un tavolo e certe volte far ragionare un po' di più gli amici della Lega, che tirano la coperta corta eccessivamente. Ma c'è bisogno di una cosa del genere oggi in Parlamento, Belcastro? Adesso con tutto il rispetto, non mi pare. Le posso dire con convinzione, ahimè, c'è bisogno. Dove ahimè si trova lei? Scusi, Belcastro, dove si trova? In questo momento sto andando a Soverato. Io vivo la Calabria, vivo in Calabria nella parte più bassa, sono proprio a sud, provincia di Reggio Calabria. Calabrese doc lei è, calabrese doc, orgogliosamente calabrese. Orgogliosamente calabrese. Senta, Belcastro, dobbiamo dire anche una cosa, Parenzo. Fare gli auguri, perché il signor Belcastro, dopo tanto penare, è diventato sottosegretario. Come ha festeggiato, signor Belcastro? Non ho festeggiato affatto, ho ricevuto solo tanti auguri da mezzo mondo. E vabbè, un festeggiamento con sua moglie festeggerà. E con mia moglie ci siamo dati un bacino quando sono tornato da Roma, ma molto oh, acido, che bello, molto è una ronca. Scena meravigliosa. Scusa, David, allora, siccome c'era stata questa cosa dell'aereo, tu sai, no? Questa cosa dell'aereo, cioè il signor Belcastro, mi corregga se sbaglio, l'onorevole Belcastro era partito in aereo praticamente sicuro di essere sottosegretario agli interni. No, si sbaglia di grosso. Mi sbaglio di grosso, no? Sì, sono partito in aereo perché ero sicuro di non essere sottosegretario. D'accordo, è atterrato ed era sottosegretario all'ambiente. Allora a quel punto però non è che si poteva tornare indietro. E dunque, diciamo, c'è stato il giuramento, ci sarà la settimana prossima, ma c'è stato il bacino. Questo, ci racconti questa cosa? Lei è atterrato o c'è la sua moglie? No, io viaggio dall'aeroporto, sono arrivato a casa e per arrivare a casa ci ho messo circa 2 ore perché sì? Dovevo fermarmi per le centinaia di telefonate che ho ricevuto. Certo. Di felicitazioni dai miei amici meridionali, sì, principalmente, ma non solo. E poi sono arrivato a casa e ho continuato a ricevere telefonate fino all'1:30 di notte. Una cosa pazzesca. E sua moglie, il bacino con sua moglie, non ce l'ha raccontato? Il bacino come lo dà lei alla sua, appena arrivo a casa dopo una settimana che sto fuori. Che le ha detto? Sono contenta, sono orgogliosa. Che le ha detto sua moglie, signor Belcastro? No, mia moglie è comunque sempre orgogliosa di me perché no, ho capito. Però sai, è sottosegretario, cioè, non è che uno diventa sottosegretario ogni giorno. No, va bene, ma allora le posso dire una cosa? Io lo considero questo incarico come uno strumento per tentare di dare qualche risposta in più alla mia gente. Questo tutti, però per signor Belcastro... Per quello che mi riguarda non era l'aspirazione massima della mia vita, io facevo altro nella vita. Ma perché dicono tutti così però? Poi una volta che c'erano... Non lo so se lo dicono tutti. Ma lo dicono tutti, quello, non volevo farlo, me l'hanno chiesto. Mi riguarda, le assicuro che è così, ma chi mi conosce lo sa, io vorrei che lei facesse un sondaggio in Calabria. Io ero uno che stava molto bene, stava pure, conducevo una vita molto tranquilla. Senza fare politica. Proprio così, aiutando qualche persona, qualche amico che... La politica è un disastro, gliel'hanno imposta, l'hanno costretto a fare politica. Devo dire che ho sentito forte il senso di responsabilità e ho voluto cercare di dare un contributo. Non a caso. Belcastro è beautiful Castro, si rende conto di aver pescato un dolly e beautiful Castro. Io non sento niente, cioè Parenzo non si sente, io non so cosa c'è stasera, non si sente. Borsa, no, che borsa? Pubblicità, torniamo subito. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Eccoci qui la zanzara con un po' di problemi di collegamenti, ma sono cose normali quando si va in diretta ogni sera. Dove andiamo? Dove andiamo? Adesso si rimette in collegamento anche Parenzo. C'è con noi il neo sottosegretario all'ambiente Elio Belcastro, calabrese doc in collegamento da Soverato, Guido dalla provincia di Ferrara, buonasera Cruciani, dica. Senta, io devo porre un quesito. Alcuni 15 giorni fa il nostro ministro, che lei so che è un suo estimatore, Tremonti. Ma veramente non sono estimatore di nessuno, comunque lei dice che sono estimatore. Vabbè, comunque dica. In ogni caso, si parlava di riduzione delle tasse, di 2 liquide, 3 liquide, insomma sembravamo in crociera costa. Io avevo già comprato anche il biglietto. Dopo qualche giorno siamo arrivati sul Titanic. A un certo punto sono rimasto lì a mezza via. Allora, sarebbe un quesito da spiegare agli ascoltatori che stanno ascoltando la radio, i cittadini. Sì, no, per carità, questa è la discussione generale. Dato che è la vostra radio, avete un grandissimo esperto, i Barisoni. Allora, ascolti Barisoni, abbia pazienza. No, cosa dire, vuole che le dica? Lei dice, Tremonti dovrebbe spiegarci come mai siamo passati dalla crociera al Titanic. A volte c'è un po' la coda di paglia, perché ma chi? Chi? Un pochino, Tremonti, Berlusconi, è già lì che scappa... Sto dicendo che lei potrebbe chiedere, se non è in grado lei di rispondere, sì, a Giannino o a Cruciani o a Barisoni, e poi dopo la fa sapere un'altra sera nella sua trasmissione. Va bene Guido, lei ci vuole ammazzare qua. Parenzo, ci sei? Eccomi, mi senti forte e chiaro? Oh, ma finalmente, ma che è successo? Stavi con l'auricolare. Ma mi vai a quel paese, sì, ti voglio ammazzare. Donatello voglio da ti voglio ammazzare con l'auricolare, stavi una cosa inascoltabile. Donatello da Bologna, buonasera. Belcastro, sì. Belcastro, sì, scusi un attimo. Qua. Eccoci, eccoci qua, mitico Belcastro. Senta, perché disse perché lei disse una volta che ci vuole un pizzico di mafiosità positiva per fare il bene del paese? Allora, ci sono degli atteggiamenti, no, tipo quella di voler pretendere di portare i ministeri al nord, no, dico che sono un bel pizzico di mafiosità negativa. Cioè la Lega è mafiosa, la Lega è mafiosa, diciamo. No, sono atteggiamenti un po' così, insomma, ecco, io devo dire una mafiosità negativa, no, nel senso che si ritiene che alcuni territori siano migliori di altri. Io sono più che mai convinto che la Lega ma lasci perdere la Lega queste cose non le pensi, no, d'accordo, dare... però perché lei disse che ci vuole, siccome lei è calabrese, per carità, adesso non è che tutti i calabresi sono mafiosi, non voglio dire questo, però però quando una persona, un politico calabrese, pronuncia la parola mafia e dice che ci vuole un pizzico di mafiosità positiva per fare il bene del paese, sì, insomma la cosa diventa un po' sospetto. Comunque bisogna essere un po' dritti, perché fino a oggi il sud ha subito, ahimè, scelte, cioè bisogna essere un po' mafiosi, dice lei? Un po' mafiosi votati al bene. Se i mafiosi, anziché scegliere la via del male, avessero scelto la via del bene, cioè avessero pensato a produrre, a lavorare, allora hanno scelto altre strade, quelle della violenza, sono le cose peggiori che possono accadere. Allora, se il termine mafioso, no, volesse essere... cioè se avessero fatto il bene del sud, dice lei. Ecco, interpretato nel senso di voler fare bene alla gente, allora ben venga una mafiosità positiva, questo è il senso che ho dato io. A quella frase lì, no, siccome oggi le viene rimproverata. Le posso assicurare una cosa, no, che sono... un uomo di quelli che sta così al di sopra che può parlare anche di queste cose, può parlare. No, voglio dire una cosa. Poteva evitare, diciamo, perché la mafia è una roba seria, quindi poteva evitare di giocarci su. Comunque ormai si può mafia, dire tutto. La mafia purtroppo, cioè qui c'è abbiamo l'andrangheta, l'organizzazione criminale. Esistono organizzazioni che sono mafiose anche a Milano, serie, al di là delle infiltrazioni dell'andrangheta, no? E sono quei poteri forti che hanno... Ma perché l'andrangheta oggi controlla molta parte della Calabria, diciamo la verità. Ma certo, e come se la controlla, sì. Senta, diciamo che dobbiamo dire grazie anche a questo governo e al ministro. Vabbè, adesso non ci faccia pippone su Maroni e il governo, Belcastro. No, è molto bravo, devo dire che ho capito, però... Cosa vuoi che dica lei, per forza, dici che è bravo. Scusi, Belcastro, però eravamo rimasti che vorrei sapere con chi parlo. Con Parenzo, sono Cruciani, Parenzo. Sono il signor Parenzo, buonasera sottosegretario. Buonasera. Senta, ma lei è passato a un certo punto improvvisamente dagli interni all'ambiente, cioè doveva diventare sottosegretario agli interni. Prego, non ho sentito che arrivano i messaggini qua rumorosi a me. Che messaggini arrivano, per caso? No, sono le telefonate in entrata che non entrano, per cui mi arriva la segnalazione. Arriva ancora gli auguri, ancora siamo nella fase della luna di miele. Credo proprio di sì, ahimè. Bello, però un governo che non dura, lei diventa sottosegretario. Ma che ne sai che non dura? Potrebbe durare anche. Non faccia il menagramo, questo governo durerà e come se durerà. Beh, adesso soprattutto sarebbe una beffa, no, Belcastro? Prego? Sarebbe una beffa, dico. Sì, forse appena arrivo dovesse cadere il governo, ma non ci sa. Sarebbe una beffa pazzesca, no? Giusto? Sarebbe però... una beffa per me, ma no. Certo, sarebbe una grande beffa. Se la goda perché sta per finire. Come? Se la goda perché sta per finire, se la goda questi due mesi, poi finisce tutto a settembre, se la goda. Lei pensa questo, io prendo la politica come un servizio, dovesse finire tutto tra sei mesi. Naturalmente non verrà a governare sicuramente Bersani al posto di Berlusconi. Ma è quello che ne sa. Questo glielo dico con certezza. Ma qui ci sono le elezioni, magari gli italiani scelgono di votare il centro-sinistra. Se dovessimo votare, sì, e gli italiani scegliessero di votare chi finanzia il proprio partito prendendo le macette, sì, insomma. Non ho capito, che c'entra adesso? Adesso sta parlando della questione morale del Partito Democratico. Mi pare che all'ordine del capito, giorno. È all'ordine del giorno, però adesso stiamo parlando di altro. Non le piace parlare della questione morale? Ma si figuri, guardi, non ho problemi da questo punto di vista. Non le piace. No, mi piace. Le piace e parliamo di quello che le piace. Senta, no, lei però è strano, perché all'inizio di giugno, cioè un mese e mezzo fa, diceva: ci trattano da servi, adesso basta, soldi per il sud oppure me ne vado con De Magistris. Me ne vado con De Magistris, se l'ha detto il giornalista. Vabbè, comunque lei non l'ha detto, però ha detto: soldi per il sud, ci trattano da servi, siamo stufi. Ma è vero, c'è bisogno. E che è successo da qui? Scusi, poi alla fine è diventato sottosegretario del governo. No, allora c'è una. Ma che c'è? Che novità c'è? Allora, che questo governo sia eccessivamente sbilanciato verso il nord, ma mica lo neghiamo. Scusi, ma lei adesso è diventato sottosegretario, fino a un mese e mezzo fa diceva soldi per il sud. Io sono diventato sottosegretario di un governo che ho sostenuto e che intendevo comunque sostenere, perché il grande senso di responsabilità mi imponeva anche all'epoca, quando abbiamo subito delle scelte anche di natura economica che non privilegiavano i nostri territori. Sì. Perché bisogna pensare che l'Italia è una. No, però Beccasso, adesso scusi, io le ho chiesto un'altra cosa, non ci deve rifare adesso la pippardella del sud, del nord. In un momento come questo significa giocare al suicidio, rompere il grande. Ho capito, d'accordo, io però un'altra cosa voglio sapere. Responsabili, caro amico mio. Io lo so che lei è responsabile, adesso popolo e territorio. Che significa popolo e territorio? Che significa? Il popolo e il territorio sono gli elementi costitutivi della nazione, per cui sono anche l'acqua, acqua e sole, poteva chiamarlo uguale, acqua e sole. L'acqua e il sole sono altre cose, sono gli elementi costitutivi del concetto di nazione. Però scusi Belcastro, certo, però Belcastro, adesso al di là del sud, del nord, che spesso sono slogan, no, lei ha detto un mese e mezzo fa. Non sono slogan, per lei saranno slogan. Ma sono slogan, messi così sono slogan, Belcastro, adesso poi non entriamo nei dettagli. No, per me no, per me il sud è la mia terra. Ma certo, si figuri. È una gran bella cosa. E siccome vedo che la mia terra e la gente che la abita in questo momento annaspa forse più della gente del nord, allora io devo inevitabilmente spingere e concorrere a formare la politica nazionale. Però lei diceva posto anche all'interno benissimo del governo, che devo dire, le ripeto, le ribadisco, non era la mia massima aspirazione. Benissimo. Però capisco che è uno strumento importante, perché io possa dare un contributo concreto all'ambiente, sottosegretario all'ambiente. All'ambiente, e in Calabria è un settore che merita grandissima attenzione. Assolutamente, per carità. Scusi, però lei fino a un mese e mezzo fa diceva che ci trattano da servi, adesso è cambiato qualcosa? Penso. E che è cambiato? È cambiato che c'è più colloquio, c'è discorsi, prima di entrare in aula e di portare all'ordine del giorno dei lavori dell'aula siamo coinvolti, mentre prima eravamo piccoli e questo è cambiato. Questo non avveniva. Vabbè. Senta, allora ho capito che non è mai troppo tardi. Non è cambiato nulla, Beccasso, questa è la realtà. Comunque va bene lo stesso. Questo lo ritiene lei, ma io invece sono convinto non solo che è cambiato, ma che è cambiato molto negli ultimi mesi. Allora, qui c'è il segretario, certo, e questo è cambiato, certo. Amico mio, che cambia ancora ulteriormente c'è in questo ultimo anno e mezzo di governo che ci sarà. Vabbè, senta Beccastro, però qui la gente ci chiede delle cose, gli ascoltatori della Zanzara ci chiedono delle cose. Lei è diventato sottosegretario all'ambiente, giusto? Dica, sì. Giusto. Sì. Lei sa che cos'è il protocollo di Kyoto? Il protocollo di Kyoto io lo so che cos'è, però non consento a lei, io ho tre lauree. No, per cui no, cos'è il protocollo di Kyoto? Ma cos'è il protocollo di Kyoto? A fare gli esamini, capito? Lei forse non lo so che è laureato. Scusi, io le ho fatto, lasci perdere se io sono laureato o no. Lo sa che cos'è il protocollo di Kyoto o no? Ma certo che lo so, ma non lo voglio dire a lei. Lei deve non me lo vuole dire. Lo dica agli ascoltatori, non a me. Ma lo dica agli ascoltatori. Se mai mi metto io a fare gli esami a lei. E lei ma che c'entra? Ma è lei che fa il ministro, mica io. È lei che fa il sottosegretario. E allora lei è abilitato a fare gli esami a me? Ma no, ma è un gioco. È un gioco. Allora io con lei non ci gioco. Vabbè, non vuole giocare. Che cosa vuol dire PM10? insiste. Allora, vabbè, cazzo, scusi, ma lei deve abbia pazienza, ma non è che io faccio il sottosegretario all'ambiente. Lei che competenze ha per fare il sottosegretario all'ambiente? Con estrema serenità. Allora lei no. Pensa, come tanti altri, no, che il Parlamento italiano è fatto da gente ignorante, gente che spesa il fianco. Allora, nel Parlamento italiano c'è tanta gente che rappresenta il popolo italiano davvero, e io rappresento una parte di popolo che ha molta più dignità di tanti altri. Mi dica almeno cos'è il CISCRI. Che crea la cultura nel mondo. Noi veniamo dalla Magna Grecia. Noi siamo a Roma. Ma che vuol dire la Magna Grecia? Ma qui lei è sottosegretario all'ambiente, non è che è a tutti i livelli. Se i calabresi si ritirassero a casa un giorno, che è il mio sogno, le assicuro che la calabresi rimarrebbe priva di molta, molta cultura, a cominciare da tutti i primari medici che abbiamo in giro. Ma che c'entra? A cominciare dai nostri maestri al nord. Ma che vuol dire, Beccastro? Le dico che lei non è autorizzato né abilitato, dico, vorrei vedere il suo curriculum. Ma cosa c'entro io? Ma è lei che fa il sottosegretario all'ambiente, mica io. La ringrazio, la saluto e no, lei non sa rispondere. Giro. Scusi un attimo. No, faccio un'altra. Ma che gli italiani? Quali italiani? Beccastro, pronto? Signor Beccastro, mi sente? Se n'è andato. Una domanda politica per Beccastro. No, se n'è andato. Che cosa hanno intenzione di fare sul SISTRI, se sa che cos'è? Il SISTRI. Pubblicità. Il SISTRI. Siamo qui, caro Parenzo, e ti faccio sentire i titoli della 7 fra qualche istante. Sì. Con un'aggiunta, dopo magari me lo recuperate, l'audio. Perché insomma questa cosa di Crosetto sta facendo un po' il giro delle redazioni, come è normale che sia. L'ultima bomba estiva. Ma non è l'ultima, sembra che poi ci eclissiamo, sembra che ce ne andiamo per sempre. Siamo molto tristi questa sera, certo, a mancare per 3 settimane non è bello. Anch'io sento un... La musichetta, io è come i grandi amori che finiscono, come la fidanzata. Ma non finisce nulla, poi si riprende tra 3 settimane, non ma essere no, così. Prendi atto che è finito, per 3 settimane è tutto finito. Prendi atto, vabbè, purtroppo bisogna chiudere, chiediamo. No, ma non è che... dico, purtroppo, magari... Cioè, hai paura di non tornare, Ma no, ma torneremo sicuro, ma però il Vittorio sarà qua, è una soddisfazione che diamo quel signor Vittorio che ha chiamato prima, e non dovremmo dargli quella soddisfazione al signor Vittorio. Vabbè, comunque mi dispiace, è tutto finito. Comunque dai, andiamo avanti. Comunque, voglio ricordare quello che ha detto il signor Crosetto, sì, sottosegretario alla difesa qui alla Zanzara. Quello che dice Tremonti, in particolare i suoi timori sulla Guardia di Finanza, non è lontano dalla verità. Il potere della Guardia di Finanza è troppo grande, troppo incontrollabile, e mentre dico queste cose anche io non mi sento tranquillo affatto. È una cosa grave, lo so, ma la dico in diretta perché rimanga, me ne assumo la responsabilità. Probabilmente dopo queste parole da domani ci sarà un finanziere che si occuperà anche di me. In questo paese so che se qualcuno dice qualcosa sulla Guardia di Finanza rischia di pagarla. Un carabiniere o un poliziotto senza magistrato non può indagare, la Guardia di Finanza per motivi fiscali invece può fare quello che vuole. E poi parla della gerarchia nella Guardia di Finanza, mentre le Forze Armate hanno una gerarchia chiara e vanno a dipendere dal Ministro della Difesa, la Guardia di Finanza invece non ha gerarchia. Chi risponde? Si può discutere della smilitarizzazione della Guardia di Finanza, quello ha detto Tremonti apre un nuovo scenario. Tremonti dovrebbe andare a riferire in Parlamento. Bene. Titoli della 7, no, oppure Cleto. Ma sentiamo Cleto dalla provincia di Venezia. Cleto dalla provincia di Venezia. Cleto, sì. Pronto, buonasera. Dica. Niente, si dovrà intervenire in merito appunto alle affermazioni fatte dal dottor Crosetto sulla base delle dichiarazioni lasciate questa mattina appunto dal ministro. Effettivamente, allora, che la Guardia di Finanza abbia più poteri va bene, però mi sembrava che la trasmissione vertesse sul discorso di una sorta di spionaggio, no? Che il ministro non si sentiva sicuro. Ecco, cosa c'entra questo discorso con i poteri della Guardia di Finanza? Cioè lei in certo qual modo prima aveva detto una cosa quasi, cioè una cosa sensata, nel senso che poi ci potevano essere delle cose interne. Le cose interne in un corpo o nei carabinieri o nella polizia ci possono essere, perché non è detto che magari qualche generale possa avere qualche conoscenza con il presidente Berlusconi o qualche generale possa avere qualche conoscenza col ministro Tremonti, e non è detto che qualche generale dei carabinieri possa avere una conoscenza con sempre col Berlusconi, oppure avere una conoscenza appunto con il ministro della difesa. Ecco, quindi si secondo me le affermazioni, cioè doveva dire quali erano i poteri della Guardia di Finanza. I poteri, no, ma guardi, Cleto, non che significa è stato scorretto? Non ho capito. No, non ho detto che è stato scorretto, non ho detto che ho detto ha fatto delle affermazioni non giuste, nel senso che non ho detto. Ma non mi pare, cioè, ha semplicemente espresso una sensazione, ha espresso la sua sensazione, i suoi timori. I suoi timori, qualcosa in più naturalmente. Più di una sensazione. Un attimo solo, Mentana in diretta sulla 7 con in onda. Con noi, direttore. Sono e finalmente buoni. Senza tenere. Con Borghezio. Fresco di sospensione. Sì, certo, fresco di sospensione, certo, alla quale rispondo come deve rispondere un soldato politico, io mi ritengo tale, e cioè obbedisco, come ha detto il famigerato Garibaldi. E credo. Però di potermi permettere di dire che obbedisco anche se la sanzione è totalmente ingiustificata nelle sue dimensioni, perché oggi, proprio stamattina qui a Roma, la vera autorità morale che avrebbe avuto motivo di sollevare dei rilievi, per, almeno per quello che è emerso dalla, secondo me in maniera totalmente stravolgente delle mie dichiarazioni, e che comunque poteva ritenersi di avere un dovere di tutelare le persone eventualmente offese, questa autorità, cioè l'autorità della Norvegia, mi ha accolto con grande generosità nella sua sede istituzionale, grazie anche all'intercessione del gabinetto del Ministero degli Esteri, e mi ha accolto, mi ha addirittura ringraziato della mia iniziativa di voler. Chi è che l'ha ringraziata, scusi? Il plenipotenziario, il numero 2 dell'ambasciata. L'ha ringraziato perché è andato lì, non per le sue parole, no? Ovviamente, ecco. Se mi lascia esprimere, mi ha ringraziato della mia presenza e della mia iniziativa. Perché io ho proposto questa visita. Lo abbiamo filmato questo atto di contrizione. E non è un atto di contrizione, io lo definirei meglio un atto doveroso che ho sentito profondamente. Se tornasse indietro, cosa direbbe in quell'intervista alla Zanzara che abbiamo sentito? Se tornassi indietro, premesso che ritengo di non aver detto niente di censurabile da un punto di vista né penale né morale, sicuramente da un punto di vista dell'opportunità e sicuramente dal punto di vista della comunicazione ho comunicato molto male un'idea che io ritengo giusta, ed è quella di dire che una strage di questo genere obbrobriosa, io subito ho premesso le mie dichiarazioni già alla Zanzara che le mie dichiarazioni strage di questo genere erano al netto. Questa è una strage di questo genere, oltre a essere una strage, quindi un fatto efferato sul quale non ci può che essere condanna senza se e senza ma, quali effetti può avere e anche quali cause nascoste? Le cause nascoste non le so. Gli effetti li immaginavo e sono sotto gli occhi di tutti. Gli effetti che ci sono 77 persone in meno sulla faccia della terra. Chiaramente non ha l'effetto di far star bene le persone che sono state uccise. Ma le idee sono condivisibili di Breivik, dell'assassino? Assolutamente no, in questo senso. E io sto dicendo un'altra cosa, che questa strage ha avuto l'effetto di rendere criminalizzabili le posizioni assunte a suo tempo da Oriana Fallaci, attualmente da Pim Fortuyn e da molti leaders europei che vincono le elezioni anche sollecitando la gente a rendersi conto del pericolo del fondamentalismo islamico. Direttore. Allora, non vi voglio rubare ulteriore vabbè, spazio perché è Borghezio che cerca di naturalmente di girare intorno alla vicenda. In realtà ma è fortissimo Mentana che l'ha visto e l'ha buttata e si è collegato in diretta. Beh, diciamo che non è difficilissimo perché gli studi sono lì accanto, ma comunque insomma. Questo è clamoroso, capito? È un traino pazzesco. Vabbè. Ma era in forma, no? In faccia, come l'hai visto? Descrivimelo un attimo. Beh, abbacchiato Marione. Molto abbacchiato. Della TV, la radio, tu devi far sentire l'immagine, Era abbacchiato? Era abbacchiato, sì. Però ha lanciato una frecciatina, che è questa, ingiustificata nelle sue dimensioni. Cioè, obbedisco come un soldato, ma la punizione, chiamiamola così, la punizione dei 3 mesi di sospensione è ingiustificata nelle sue dimensioni. Dunque, dai, quando vedono l'altro pezzettino poi oggi. C'è una critica alle decisioni prese dal Consiglio federale della Lega. Allora, eravamo con Cleto della provincia di Venezia, 800 24 00 24, ma ci si aspetta dopo le 20:30 gran finale della Zanzara, ve lo annuncio subito, è grandissimo finale della Zanzara. È un finale con un ospite eccezionale, finale. Tu mi hai sono già eccitato. Finale grandioso della Zanzara. Cleto dalla provincia di Venezia voleva concludere forse. Sì, volevo aggiungere soltanto questo, no? Quando si parlava dei poteri, no? Perché siamo passati da un discorso di spionaggio, no? Che il ministro si sentiva spiato, a dopo i poteri che sono la Guardia di Finanza. Io penso che la Guardia di Finanza abbia gli stessi poteri della Polizia di Carabinieri per quanto riguarda fare intercettazioni telefoniche e intercettazioni ambientali, perché quelli... Cleto, però Crosetto parlava di un'altra cosa, cioè parlava del fatto che rispetto ad altri poteri è meno controllabile, è molto più invasivo come potere, come organismo. Ma l'unico potere che ha in più è il potere degli accessi, accesso domiciliare, in ambito insomma. Fiscale, oppure è la vita delle persone. Ma ce l'hanno anche questa cosa qui, non ce l'ha soltanto la Guardia di Finanza, ma anche gli uffici della gli uffici delle imposte dirette, le agenzie delle entrate, cioè, beh, appunto, dipendenti dalla Guardia di Finanza. Prego? No, ma certo, di questo si sta parlando. Quello che ha percepito, sembra che la Guardia di Finanza abbia questi grandissimi poteri e per mezzo di questi poteri possa fare quello che vuole, ma non è niente vero, perché è sempre conferito alla legge. Ma ecco, sì, certo, ma è chiaro che è sempre conferito alla legge. Credo, lei sta però ragionando in maniera formale. Gabriella dalla provincia di Lecco, buonasera. Buonasera a voi. Dica, parli forte. Sì, non mi sentite? Adesso sì, molto bene. Io volevo, a parte che adesso ho sentito l'intervento di Borghezio che ha dichiarato di non saper comunicare, quindi è meglio che se ne vada, perché la sospensione è mite nei suoi confronti. Si deve dimettere, lo devono estromettere, ma io avevo chiamato invece per Belcastro quando ha detto che ci vorrebbe una mafia, cos'è che ha detto? No, la mafiosità positiva, però non si riferiva ai mafiosi, no. Si riferiva alla lobby. Cioè, secondo lui, in questo caso fare mafia significa fare lobby. Ma cioè, la mafiosità positiva. Sì, non si deve pronunciare la parola mafia, però è diversa la cosa. Non voleva esaltare la mafia. Oggi viene messo in croce. Bisognerebbe metterlo in croce per tante altre cose, Belcastro, per quello che abbiamo ascoltato. Lasciamo perdere. Non però per questa frase che ha pronunciato sulla mafiosità positiva. Ripeto, magari la parola mafia non va pronunciata, ma intendeva un'altra cosa. Inafferrabile, se vogliamo, cioè dire bisogna fare lobby. Il sud, questo fantomatico sud, dovrebbe fare lobby, ci vorrebbe la mafiosità positiva invece della mafiosità negativa. Questo è il ragionamento. So che è un po' perversa la cosa, e quando si pronuncia la parola mafia comunque si sbaglia, ma non è che vuole dire che esiste la mafia positiva. Esatto. E ormai il connotato è quello. Lo so, Gabriele, non bisognerebbe pronunciare la parola mafia quando si parla di queste cose qui, soprattutto da parte di un nuovo politico calabrese. La ringrazio molto. Francesco da Cagliari, buonasera. Buonasera. Dica. Io direi che non bisogna pronunciare la parola lobby, No, come no? No, lobby va benissimo. Ah, va benissimo. Va benissimo. Legalizzare le lobby, renderle trasparenti, soprattutto. No, legalizzare sono già. Le lobby e lasciamo vietata l'erba curativa. No, ma per me l'erba curativa va anche legalizzata. Come Giovanardi fanno delle lotte che poi garantiscono solo i guadagni alla mafia, quella vera. Guadagna dal proibizionismo la mafia. Sì. Francesco, Giovanardi voleva denunciare Parenzo, peraltro, perché pensava che stesse fumando una canna. No, io non credo che se uno vede un signore che si fa uno spinello lo possa denunciare. David, in nome di che cosa? In nome di quale legge? Scusa, di nessuna. Non esiste è una libertà personale. La Costituzione è anticostituzionale. Se dovessero vietare a una persona di fumare una determinata cosa, sarebbe una coercizione della propria libertà, bella e buona. Francesco, un attimo solo, perché ho la borsa. Torniamo tra un attimo con una super sorpresa qui alla Zanzara. Se riusciamo a collegarci per telefono, naturalmente c'è sempre questo, soprattutto questa sera, questo punto interrogativo. La borsa, e poi torniamo con l'ultimo ospite dell'ultima puntata estiva della Zanzara. Riprendiamo il 22. Naturalmente c'è qualcun altro a condurre qui la Zanzara per queste 3 settimane, ma insomma il signor Cruciani e il signor Parenzo tornano di gran carriera il 22 di agosto. Tu si quagliola che devi sangava va giù con pallone. campana di sti lacrime, batti Roma Parigi, con un braccio a tua mamma, non fu scema vincere, dille tutta la verità. Caro Gaglione, ti rincorrerò fino a quando quella voce non mi risponde di nuovo. Stiamo parlando di Antonio Gaglione, il parlamentare più assenteista del secolo, forse. Mi fate il cellulare, per favore? Eccomi. No, non sei tu Gaglione. Io sono Gaglione. Gaglione, il solito Gaglione. Ci vuole molto a fare un numero? Pronto? Pronto? Sì? Sì, buonasera, cercavamo il dottor Gaglione, sei un imbecille. Abbassa il telefono questo Gaglione. Ha paura di voi. Mi scusi, sto lavorando. È lui quando ha risposto. Risentiamo un attimo. Mi scusi, sto lavorando. Gaglione, ti vogliamo qui alla Zanzara. Noi ti vogliamo bene alla fine. Alla fine però. Alla fine, proprio alla fine, eh. Paolo dalla provincia di Torino, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera Cruciani. Ci siamo già salutati Paolo, dobbiamo continuare così oppure possiamo andare al dunque? Ascolti, una piccola provocazione. Io sì, ascolto la sua trasmissione spesso, perché viaggio spesso in macchina. Sì. Sono veramente sconcertato dagli interventi dei vari politici. Allora le chiedo se fosse possibile fare una trasmissione evitando di invitare i politici. Faccia una trasmissione. Beh, mi pare un po' complicato Paolo, dato che è una trasmissione che si occupa di politica. Poi come fare una ragosca senza una ragosca? Sì, no? Fate lo stesso, volete occuparvi lo stesso di politica, ma con persone più serie. Io da sì, così diciamo, poi da ma lei ci vuole ammazzare, ci vuole distruggere, ci vuole far chiudere. Non voglio distruggere, anzi, faccia anche una trasmissione su altri argomenti. So che lei è appassionato di running, ma basta invitare. No, ma scusi, abbia pazienza. Cioè, io sarò pure appassionato di running, ma per fortuna non ne parlo alla radio, altrimenti altrimenti mi suicido. Caro Paolo, abbia pazienza. È una trasmissione di politica e dunque inevitabilmente ci sono i politici. Poi li intervistiamo a modo nostro. No, li intervistate molto bene, sono gli interventi dei politici che veramente da italiano, diciamo, di intelligenza media, perché non mi reputo di alta intelligenza, sentire certe affermazioni veramente mi lasciano veramente senza parole. La politica è anche questo, è pop da noi, è pop. Va bene Paolo, grazie. Andiamo a Vicenza. Antonio, buonasera. Sì, buonasera. Volevo fare una domanda a Parenzo. Sì. Un attimo solo. Sì. Pronto? Sì. Ci cambia tutto per crociare. Sei un imbecille. Scusi Antonio, è sempre casa Gaglione qui. Ma possibile che non becchiamo un Gaglione in provincia di Brindisi, in quel maledetto paese in provincia di Brindisi, sia detto con tutto il rispetto? No, stavolta non ci casco. Sì. Vabbè, Antonio, dica. Sentendo prima il sottosegretario all'ambiente, che non sa neanche cosa sono le PM10 e non sai il protocollo di Tokyo, a un certo punto dico, uno come me che lavora nel settore, che non ha tre lauree, come sono deficiente, che ci rappresenta da buon italiano. Sì, poi bisogna vedere se ha tre lauree, cioè che lauree sono. Voglio andare a controllare subito queste tre lauree. Dico, ma io sono stufo di vedere un Scilipoti, di vedere un deficiente come quello che ha parlato prima. Cioè, noi siamo gente che si alza la mattina alle 5 e che produce. Cioè, questa è una vergogna a tutti gli effetti. Ora volevo dire, vengono scelti per la lunghezza della lingua queste persone e di quanto leccano. Vabbè, adesso Antonio, glielo dico io, non c'è nessuna necessità di avere il sottosegretario all'ambiente, a parte il fatto che si legge che la Prestigiacomo ha litigato con l'altro sottosegretario all'ambiente che si chiama credo Catone, togliendogli le deleghe. Non c'è alcuna necessità, ci sono equilibri interni alla maggioranza, se solo questo, non c'è alcuna necessità per il paese che ci sia un nuovo sottosegretario all'ambiente, nessuna, zero. Enrico dalla provincia di Cuneo, buonasera. Buonasera, Cruciani, come si chiama il sottosegretario? Belcastro, alla... Belcastro. Mamma mia, purtroppo mi hanno già tolto le parole, quello che è intervenuto prima di me, sì. A dargli del deficiente, perché... Vabbè, adesso voglio dire, Enrico... No, ma perché anch'io essendo... No, vabbè, a parte che uno non è che deve essere... Un attimo solo, per... un altro Belcastro a... Ah, no, cellulare di servizio, sembra, quelli che abbiamo noi, magari sono sbagliati, eh. Sì, mio nonno, Parenzo. Buonanima. Non risponde più ai cellulari. Mi dovete fare... risponde, dai. Ma è una cosa pazzesca però che non risponda. Bisogna fare una denuncia in procura subito. Chiamatemi numeri fissi, i numeri fissi, perché ai cellulari il signor Gaglione non risponde più. Poi... Hai fatto asterisco 31 asterisco? Sì, non, cioè, non... Io avevo una fidanzata che non mi rispondeva mai al telefono. Sì, vabbè, racconta la solita storiella, su. No, so che è vero. E allora, perché vedeva il numero, mi aveva lasciato la cornuta. Allora io, per recuperarla, le facevo il numero asterisco 31 asterisco. Lo so, non è una cosa... Poi già il numero, viene fuori il numero sconosciuto e si incuriosiva la signorina e rispondeva. Io la insultavo poi. Mezzucci. La ex fidanzata. Donatello da Bologna, 800240024. Signor Donatello, cosa ha da dirci? No, salve, buonasera al dottor Parenzi e a lei, dottor Cruciani. Ci dica. Io guardi, sono meravigliato, a parte Belcastro che ho trovato a... No, ma c'era Enrico prima, c'era Enrico, ce l'aveva finito Enrico, no? No, non aveva finito. Guardi, Donatello, dica. Allora, per quanto riguarda... c'è una certa analogia anche con Giovanardi, mi è piaciuto moltissimo la provocazione che ha fatto ieri il dottor Parenzo con Giovanardi dicendo adesso mi faccio una canna. Cioè questo è stato per me proprio il culmine, nel senso che ho sentito proprio in radio che lui è rimasto fulminato da questa frase qui e a questo punto ha iniziato a inventarsi tante piccole cose, perché fondamentalmente io lo considero un po' patetico e anche incompetente riguardo il discorso delle droghe, soprattutto il discorso delle droghe, visto che lui si occupa il di questa... Il caso Borghezio è in onda, un attimo. Attenzione, sono cose che pensiamo in molti. Oggi il crociato padano è sceso a Roma per chiedere scusa. Roma capitale, finché è capitale va tenuta pulita. Dovrebbero farlo chi di dovere, comunque arriviamo anche noi padani a fare il nostro dovere. I cittadini. Sta pulendo per terra Borghezio un cumulo di cacca. Ma questa è una meraviglia perché è opera degli antichi romani. Qui sono al foro romano, Parenzo e Borghezio. Studiosi della nordici europea. Beh, certo, gli antichi romani erano una popolazione di origine nordica. Lei tra un po' andrà all'ambasciata a portare le scuse. Oggi, dopo questa strage, questo popolo straordinario ha dato l'esempio a tutto il mondo di cosa vuol dire essere un popolo civile. Io ammiro questi popoli nordici, questo senso di civiltà, questi paesi che sono rappresentati da capi di Stato come i re della Svezia, della Norvegia, della Danimarca, che girano sul mezzo pubblico. È una cosa pazzesca. Poi alle 10.35 in punto, in una splendida villa nel quartiere Aventino di Roma, fa il suo ingresso all'ambasciata di Norvegia. Noi apprezziamo tutti che vengono qua con il cuore sereno a fare espressione del loro cordoglio per il popolo norvegese. Voi avete detto il nostro stile di vita non cambierà, il nostro paese rimarrà sempre un paese aperto. Sì, magari può continuare così, è quello che vogliamo tutti. Quindi non cambierà il vostro stile di vita? No. Noi siamo norvegesi e vogliamo continuare a esserlo. Rivolgo un pensiero addolorato e partecipe alle vittime della strage di Oslo, ai loro cari e a tutto il popolo norvegese. Esempio di grande civiltà. Mi rammarico e mi scuso se le mie parole, certo male interpretate, ne avessero offeso la sensibilità e il dolore. Con affetto e sincera partecipazione, Mario Borghezio, deputato europeo. Anche una preghiera. Mi ricordo tutto questo all'ambasciata di Norvegia, David Parenzo in esclusiva con Mario Borghezio. Mater nostri qui in cieli, santificato il nome tuo, non viene. Sei vivo, Parenzo? Benissimo, benissimo. Si sente nulla come al solito, sei in una catacomba, sembra che sei in una catacomba. Ma mi senti ora? Sì, molto poco, distante. Allora, ricordo che nella strage di Oslo sono morte. Eccoci qui, eccoci qui, abbiamo il traffico, poi torniamo per l'ultimissima parte della zanzara prima delle nostre vacanze, 3 settimane, caro Parenzo. La linea è caduta, beh, questa sera in treno, ci si muove, ci si sposta, anche questa è la zanzara. Traffico per le ultime calde dal fronte delle autostrade, torniamo subito. Del messaggio, delle teorie, delle fabbricazioni oggi di un attentatore omicida oggi, che lei condivide. Qual è la parte che condivide? Io condivido non quello che dice il pazzo di Oslo, io condivido totalmente le posizioni, le dichiarazioni, anche le più dure. Vogliamo ricordare, qualcuno mi tira per le orecchie oggi sui giornali, dice Borghezio fa intervenire Oriana Fallaci. Ma Oriana Fallaci, ci siamo dimenticati. Ma non si nasconda dietro la Fallaci. Vabbè, un'altra qual cosa, è lei l'affermazione, ora. Cioè conferma che ci deve essere una crociata contro la deriva islamista. Sì. Cosa ha detto, di cosa rappresenta io di dico, positivo Breivik? Io dico che il pazzo di Oslo è un pazzo. Ciò premesso, se gentilmente mi lasciate terminare il mio pensiero, ciò premesso, le posizioni mie e di altri molto chiare, molto dure, qualche volta anche forse esageratamente dure, nei confronti dell'Islam fondamentalista, cioè non della religione islamica, che io rispetto. Però, e noi rispettiamo. Qui, caro Parenzo, non è ancora in collegamento, Borghezio sfugge alla questione principale, cioè qui non sono in discussione le idee dure che lui esprime nei confronti dell'Islam, eccetera. Qui c'è stato l'accostamento chiaro, evidente nelle sue parole, altrimenti il caso non sarebbe scoppiato. Cioè, lui ha detto esplicitamente le idee, da quello che ho letto nei giornali, le idee di questo Breivik in alcuni casi sono ottime. Cioè, questo è il punto fondamentale, non è quello che pensa Borghezio che conosciamo, è il fatto che ha detto queste frasi. Ci sei, David? Certo, sono alla Dispoli. Sei alla Dispoli? Che se farà alla Dispoli? Vabbè, comunque non voglio... La Dispoli. Non voglio indagare. E qui Telese sta cercando di tirare fuori qualcosa da Borghezio, sentiamo. E non condannare, cioè non capire che questo no, terrorismo... Io l'ho condannata la strage. No, condanna il gesto, ma questo terrorismo ariano, chiamiamolo così... Vabbè, adesso si va... La vera questione non è questa, la questione non è questa, la questione è il fatto che lui ha detto che le idee di Breivik in alcuni casi sono ottime e l'accostamento tra alcune idee che lui professa e quelle di Breivik, questo è il punto, non la discussione sull'estrema destra, gli ariani, le cose puttanate, come direbbe. Serio come Marcello Veneziani sul giornale, ecco, si va a parlare su discussioni che non c'entrano niente con la questione Borghezio, con il perché si è aperta la questione Borghezio. Dramma Barnaby qui, su questa roba. Dramma Barnaby. Alessandro da Roma, buonasera. Buonasera dottor Cruciani, Valenzaccio, buonasera. Ciao caro. Salve. Senta, volevo esprimere tutta la mia solidarietà per il signor Borghezio, ironicamente, anche perché qui a Roma oggi se ne fanno di grasse risate per la figuraccia da parte di questo nostro europarlamentare. quindi non mi pare che ci sia Roma mobilitata, insomma, per questa roba. No, sì, a parte questo, sempre il solito fatto: Roma ladrona, Roma non si lavora, tutte queste cose. Quindi un minimo di soddisfazione ci siamo tolta pure noi. Quindi tutti questi barbari non sono di un'intelligenza superiore alla nostra. Mm. Ma riguardo a cosa, sì, scusi? Che Alessandro? Soddisfazione è? L'hanno sorpreso per tre mesi? Vabbè, è già un minimo per dimostrare quanto valga la nullità di questa persona. Ma sono stati i leghisti stessi a fare questa, a mettere questa sanzione, quindi... Sì, vabbè... C'è la Costa Magna particolarmente avvelenata, sentiamo. Nei confronti contro una deriva islamista. Certo. Cioè il meccanismo della violenza è assolutamente legato a quelle idee. No. Allora come fa a separare violenza da quelle idee? Come fa a andarsi a scusare se poi le riconferma? No, io non riconfermo un accidente di quelle parole là. No, io non riconfermo quelle parole là. Di questo teatrino. Sono il primo a dire che mi sono espresso male. Noi stiamo assistendo al classico gioco della politica oggi. Vabbè. Dove questo è Marco Rizzo. Roberto da Ferrara, buonasera. Buonasera a tutti. Io volevo intervenire sulla dichiarazione del sottosegretario riguardante la Guardia di Finanza. Io credo che finalmente l'ipocrisia italiana sia al termine e tutti sanno bene quanto la Guardia di Finanza in tutte le attività commerciali faccia cose che insomma lasciano un po' perplessi. Io faccio l'esempio di mia suocera che aveva un negozio piccolissimo, puntualmente il finanziere del paese arrivava il giorno che iniziava la scuola e prendeva 4 grembiulini, tutti i quaderni e quant'altro, salutava, ringraziava e andava via. Faccio l'esempio di un negozio da 4 soldi. Immaginiamo e sappiamo benissimo che nelle grandi attività commerciali l'iniziativa e l'attività di ricerca che può fare la Guardia di Finanza è molto intimidatoria, per cui l'attività di ricatto, proprio per l'attività che svolgono e per la libertà che hanno, è altissima e quindi anche la posizione è altissima. Scusi, però Roberto, questo mi pare evidente, quando si ha il compito di andare a sviscerare le finanze degli italiani è normale che sia così. Bisogna vedere come si esercita questo potere. Tutto qui, che abbia un potere immenso, è Messie la Palisse. Siamo a Messie la Palisse, abbia pazienza. Cioè, non ha detto questo Crosetto. Se avesse detto questo sarebbe stato ridicolo. Ha detto molto altro. Grazie. Gianni da Napoli, buonasera. Salve, buonasera Susani. Buonasera. Dica. Allora, io volevo dire una cosa molto breve. Mi fanno molto ridere tutti i politici di sinistra che adesso si stracciano le vesti per le dichiarazioni di Borghezio. Perché alla fine lui non ha fatto niente di più diverso di quello che fanno loro sempre, ogni volta che c'è un attentato in Afghanistan o un attentato in Italia da parte di fazioni di estrema sinistra, cioè condannano il gesto violento. Borghezzi è avvelenato, sentiamo. E ho detto alla Zanzara, e ho detto, o l'ho fatta fuori dal vaso, ho sbagliato. Sì, ma 5 minuti fa ho detto, Rosella, io non chiedo scusa, 5 minuti fa. No, io non devo scusare. Io ho detto che contesto la fondatezza del provvedimento che è stato preso nei miei riguardi, contesto politicamente come militante della Lega, ma lo accetto. Un errore. E ho ammesso di aver fatto un errore. L'errore è che vada con la tanica sta di benzina e via Bellerio a fuoco. Non lo so. Comunque, cosa devo fare ancora? Mi hanno ringraziato. Da questo punto di vista, Borghezio ha pure ragione, Parenzo. Non è che si può trasformare in una sorta di piccagione pubblica questa roba qui. Ha detto una cosa sbagliata, si è scusato, è stato sospeso 3 mesi. Adesso che cosa? Non è che si può pretendere l'impiccagione, no, sulla pubblica piazza, o sbaglio? Ma cosa gli stanno contestando? Il fatto che lui ha preso le distanze rispetto alla strage, cosa che aveva già fatto, ma non rispetto al pensiero che esprimerebbe la destra xenofoba europea. Questo è anche un punto interessante, lui la pensa così da una vita, non è una novità, ma infatti lui ma il tema interessante è invece capire che la Lega forse si vuole distanziare da questo pensiero della destra xenofoba europea. Ma tu ci vedi questa roba qua? Io ci vedo semplicemente il fatto che questa cosa, siccome è andata a finire sui giornali internazionali in tutto il mondo, la Zanzara, Borghezio, li ha sputtanati. Allora qualche provvedimento lo dovevano prendere, altrimenti non avrebbero fatto nulla, te lo dico io, niente, assolutamente nulla. Siccome questa cosa stata più grave di altre esternazioni di Borghezio, che pure non erano tenere, allora si sono sentiti in dovere di prendere un provvedimento. Lì come un leone o no? Lo vedo un po' segnato, francamente lo vedo un po' segnato, vorrebbe combattere ma si trattiene perché non vuole esagerare. esagerare, capito? Cioè, insomma, è un borghezio col freno a mano. Esatto, un borghezio col freno a mano. Un borghezio col freno a mano. Mi dispiace, perché borghezio è borghezio, non è che potete trasformarsi in un agnellino. Invece adesso quando diventa un agnellino è inutile. Cioè, non è inutile anche a se stesso, dico. Sì, no, deve combattere, deve combattere come un leone, deve combattere. Ma sì, ma questo deve fare, se no. Alessandro Ascoli Piceno, velocemente, grazie. Sì, buonasera, salve. Una riflessione riguardo al processo lungo. No, il processo lungo no, Alessandro, ci ammazza tutto il processo lungo. No, va rapidissimo, semplice, proprio molto molto semplice. Tanto non passerà mai, non passerà mai. Ma scendere nei dettagli, proprio, scendere nei dettagli. Hanno lavorato per l'ennesima volta, hanno lavorato lì in Parlamento inutilmente, hanno fatto questa grande cavalcata, no? Quindi volevo soltanto dire questo, considerando per assurdo che il contenuto no, di questa legge sia giusto, considerando che io non sono pro Berlusconi, ma al contrario, dico, considerando le condizioni in cui verte il paese, sull'agenda pubblica, che necessità c'è di fare quella pantomima, quel teatro? Alessandro, è sempre oggi la stessa cosa, cercare di un po' allungare i processi in cui è coinvolto Berlusconi, un po' di forzare la mano in Parlamento, testare anche un po' quelle che sono le forze a Montecitorio e al Senato. Andiamo. La prima che hai detto, salvare Berlusconi. Bene, lo sappiamo, basta con questa tiritera. Salvate il soldato Berlusconi. Gianni era ancora in collegamento con noi? No, non c'è più. Franco da Milano. Buonasera. Dica. Volevo dire brevemente che la trovo un'ipocrisia, anche se io sono di idee totalmente contrarie, ma saltare addosso a Borghezio, che ha sempre sostenuto queste cose, e quindi... No, ma la critica è giusta, perché ha detto una cosa sbagliata nel momento sbagliato. Le idee si possono criticare, naturalmente, io sono primo a criticare. Un'idea la può avere anche nel momento sbagliato. No, diciamo che non, è stato tutto sbagliato in quello che ha fatto Borghezio. Sì, tutto. Ma poi che senso ha? Allora uno dice, io mi dissocio dalla strage, cioè lei trova... Ma quello l'ha già detto, quello l'aveva già detto prima. Adesso Borghezio sta tentando di dire questa sera, secondo me sbagliando, perché poi l'originale è lì, lo conosciamo tutti perché l'abbiamo trasmesso, che non ha detto che considera le idee di Breivik ottime. In realtà lo ha detto, ed è questo il punto. Dovrebbe dire, ho sbagliato ad accostare le idee al signor Breivik. Vabbè, perché dobbiamo fare gli esperti di comunicazione per Borghezio? Non mi pare il caso. Portavoce, esatto, facciamo un altro. Allora, ci sentiamo con Cruciani and Parenzo alla Zanzara tra 3 settimane, caro sono David. Molto triste, sono molto, molto triste. Ti abbraccio tutti, buone vacanze. Ciao. Ci sentiamo il 22. Grazie. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare. Radio 24. La passione si sente.